Sebastiano Barisoni e il suo Focus Economia sono l'antifiga per eccellenza. Ti prego Cruciani, inizia in fretta che non ne possiamo più di sentire Barisoni, basta! L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per 1 ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Zanzare, Uakbar, a zanzare, Uakbar. No, io non posso entrare in macchina, bloccarmi nel traffico e sentire Barisoni che parla di vacche e latte, di quote latte, basta! Datemi la zanzara, Cruciani, dove sei, Cruciani? Popolo della radio! Beh, amici miei, voi non potete vedere, solamente quelli che hanno la webcam possono vedere. Parenzo, tu vedi? Mi vedi a Milano? Mi vedi? Adesso che mi collego col... Ah no, perché sei a cosa, è vero, sei a Milano, tu non sei in studio a Roma, scusami, sei a Milano. Allora, sei a Milano a casa di altri, cioè, la cosa incredibile è che Parenzo oggi è a Milano ma non è in studio, ma lasciamo perdere questo dettaglio. No, ma te lo spiego, perché sono con la mia adorata figliola, la mia prima figlia. Siamo Margherita, sì. Sì, e domani andrò a vedere il musical Mamma Mia. Vabbè, chi se ne frega, lo possiamo aggiungere tranquillamente. E sono ospite, diciamo, gratuito, sì, non pagante, sì, a casa, perché tu domani vai a Roma. Sì, di un tuo collega ebreo, mi sembra, no? Signor Davide Romano, no? Ma, ecco, questo è molto grave. Il fatto che adesso non è qui, peraltro, il fatto che tu lo chiami in questo modo... No, vabbè, perché ci sarà qualcuno che frequenti che non è ebreo, sì o no? No, ma per capire, così, una curiosità mia. È pieno al mondo, bene. Lui... Andiamo avanti, non mi puoi... Non è che hai dovuto dire questa cosa di Romano. Ma non è mica un'offesa, mica ti ho detto che è amico di Totorrina, mica ti ho detto che è un mafioso. Ma voglio dire, se tu dici, tu sei amico dell'avvocato Trucco, dici sì, quello è cattolico. No, è diversa la cosa, perché uno... vabbè, comunque lasciamo perdere, non frega niente a nessuno. Allora, tu non mi puoi vedere, ma io qui, per tutti quelli che hanno la webcam e anche per chi lo vuole sapere, cosa ho in mano, perché adesso ho questo coniglio, ho un coniglio meraviglioso. Non è vero? Sì, ho un vivo? Ma che vivo, morto, un coniglio morto, guarda, è assolutamente uguale, tra l'altro, c'ha ancora l'occhio. No, ma di pezza sarà. No, che di pezza, un coniglio vero, sono andato dal macellaio. Sei pazzo? Sono andato dal macellaio e ho comprato un coniglio, un meraviglioso coniglio, eccolo qua. Stupendo, ragazzi, è meraviglioso, ve lo descrivo. È proprio come il coniglio, i coniglietti quelli che vediamo nei film, eccetera, che vediamo, è un coniglio buonissimo, ordinato. Avete un coniglio intero? Sì, volete che lo spezzettiamo, che lo faccio a pezzi? No. Ho detto no, lo voglio intero, coniglio, eccolo qua. Perché lo mangi? Aspetta, adesso lo faccio portare con un pony, con la macchina della zanzara, bellissimo, la macchina, ho scritto la zanzara. Con la macchina della zanzara lo faccio portare. Non c'è nessuna macchina della zanzara. Sì, come no? Cioè, che ne sai tu che succede a Milano? È quella di Napoletano. No, è così, bravo, con l'autista sera, con l'autista dall'autista di Napoletano, che spesso non c'ha un cazzo da fare, è parcheggiato qua sotto senza fare una mazza per 24 ore. Sì, spesso è così. Non è vero. Sì, non è vero. Vabbè, ma è normale che sia così. Allora, perché non può trasportare me da Milano? No, aspetta, no, ma quello è un altro discorso. Questo coniglio meraviglioso, sì, stupendo, che con era vivo. Con la macchina di Napoletano. Esatto, con la macchina andrà a un ristorante, qui a Milano. Dopo dirò il nome, sennò gli animalisti cominciano a rompere i coglioni. Per essere cotto al forno. E non ho capito perché l'hai comprato tu. No, l'ho comprato io, perché te lo spiego, perché c'è una assurda... Per fare un gesto provocatorio. No, ma che gesto provocatorio? Io ho un coniglio in mano, lo consegno fra pochissimo, anzi adesso lo consegno all'autista del signor Napoletano, direttore del Sole 24 Ore, perché lo porti in un ristorante di Milano che poi me lo consegna intorno alle 8, 8 e 10 al forno con le patate arrosto. Già ordinato tutto, già fatto tutto, già organizzato tutto. Ma chi se lo magna poi? No, me lo magno io qua, poi lo offro, eccetera, tutti, eccetera. La cosa fondamentale è questa. Perché? Perché faccio questa cosa? Mica perché voglio dire che mangio il coniglio oggi, chi se ne frega, uno potrebbe dire. Perché c'è gente che vuole equiparare i conigli ai cani e ai gatti. Ne ha parlato anche il signor Nicoletti l'altro giorno, signor Nicoletti. Perché come animali, diciamo, di compagnia, come animali domestici. Cioè impedire a noi di mangiare il coniglio, a noi, a chi vuole, di mangiare il coniglio, che è buonissimo, tra l'altro, buonissimo. E... non lo so, io non lo mangio il coniglio. Però. Non mangi il coniglio, perché non mangi il coniglio? Cioè, no, perché... la LAB, la Lega Antibisezione, è un'altra associazione animalista che si chiama non Animal, non so che. Il permesso dell'ebraismo il coniglio. Ah, però. Ma che cazzo potete mangiare voi? Niente. Cioè, ma allora, il 5. Manto, vitello, pollo. Il 5 e il 6 dicembre fanno questa roba qui, questa specie di raccolta di firme più manifestazioni, non so, cioè, ma vi rendete conto? Vogliono proibire il coniglio. Nicoletti, senti. A forza di sentire parlare questi vegani, mi è venuta una voglia di coniglio alla ligure che non ne posso più. Io non capisco se il signor Nicoletti, che io adoro, il signor Gianluca Nicoletti, condivide questa campagna. Sembra di sì. Questa campagna, che ne ha parlato lui nei giorni scorsi, assurda campagna per togliere il coniglio dalle nostre tavole. Addirittura la Brambilla qualche tempo fa voleva il carcere per chi mangiava il coniglio. Il carcere, amico mio, il carcere. Beh, mi sembra questo. Non ho capito, il signor Nicoletti, spero che abbia ancora un po' di sale in zucca. Credo di sì. Ho visto la foto ora. Ma sì, ma quel coniglio meraviglioso, adesso lo vengono a prendere. Ma una cosa schifosa hai fatto. Ma perché? Ma è stupendo. Con tutti questi anelli tutto incartato. Mi chiamate l'autista di Napoletano per venire a prendere questo coniglio, per favore, che deve andare a un ristorante di Milano per essere cotto e consegnato intorno alle 8:85. L'ho visto la foto, è agghiacciante. Dai, ma che è agghiacciante? È un coniglio, c'ha anche la forma del coniglio, è stupendo, è una grande tradizione culinaria italiana, il coniglio si può fare in mille modi. Allora, venite a prendere questa roba. Non capisco se Nicoletti ha del sale in zucca oppure è impazzito. Spero che stia giocando, che stia solamente descrivendo questa cosa, come è giusto che sia, perché il coniglio lo mangiano tutti e tutti quanti vanno a tavola. E sentiamo quello che ha detto. Se il coniglio diventasse animale domestico come il gatto, nessuno potrebbe più mangiarlo. Oggi non posso farmi uno spezzatino di gatto, mi arrestano, perché il gatto è protetto in quanto animale domestico, quindi ricettacolo e collettore di un'affettività umana che deve essere salvaguardata. Lo stesso vale per il cane. Però per il coniglio in realtà questo non funziona. Allora, ragazzi, l'affettività umana, quello che volete, va benissimo, i cani, i gatti, d'accordo, il coniglio no, francamente no. Francamente è il terzo animale più diffuso nelle case degli italiani, d'accordo, ma io voglio mangiare il coniglio, cazzo, è buonissimo. Voglio mangiare il coniglio e non mi rompete i coglioni, LAB, Animal Equality e cose del genere. Non ci riuscirete a togliere però il coniglio, scusami, dalla mia tavola. È una grande tradizione anche nella mia regione, l'Umbria. Ma di che parliamo, ragazzi? Insomma, di questo passo arriveremo a proibire le cose, dai, su. Qualcuno mi dice che ieri, non so dove, al Parlamento Europeo hanno votato per il benessere delle ostriche e dei dromedari. Ma siamo arrivati al... c'è un regolamento del Comune di Milano che dopo vi dirò, incredibile, sugli insetti, sulle cose. Perdono tempo incazzate. Però, caro Parenzo, abbiamo raggiunto un primo obiettivo importante. No, un ma primo la notizia del giorno è un'altra. Aspetta, però. Primo importante obiettivo della Zanzara. Francesco Sicignano, da alcuni detto il killer di Vaprio Dadda, non vi permettete, colui che ha difeso la propria famiglia e ha ucciso un ladro, è candidato al Comune di Milano. Sì, per Forza Italia, d'accordo, ma per me non me ne frega niente, poteva essere candidato con chiunque. E inizia la lunga marcia verso il Quirinale. Quale sarebbe il suo merito? Senti un po', cioè, qual è il merito? Ti auguro di ascoltare e di sentire Berlusconi. Ma guardi, non è che mi dispiace, è tutt'altro, anzi, lo ritengo pure. Poi abbiamo una cosa in comune, lui piace la gnocca, che a me piaceva, a questo punto qui, ragazzi. Inizia bene, l'amico Sicignano, inizia bene, candidato per Forza Italia al Comune di Milano. Ma cosa c'entra con Milano, scusami? Vabbè, Vaprio Dadda, Milano, che cazzo c'entra? Siamo lì. Dai, che c'entra adesso? Candidature di bandiera, quelle che tu in genere tanto disprezzi. Però, per no, in genere non disprezzo. Quelle che tu disprezzi, no, ma scusami, quando riguardano scusami. La sinistra, ovviamente. No, io disprezzo le candidature di bandiera, invece posso essere, siccome le ho difese in passato, no, allora, non dire stupidaggini. Non ho detto questo. Non mi rimangio nulla di quelle cose. Guardate che considero le candidature di bandiera, cosiddette di bandiera, simboliche, perché tu porti avanti una campagna, per me questa illegittima, ma è un altro, non me ne frega niente. In questo caso però dovresti dire quale merito ha Siciliano per entrare in consiglio comunale. Perché vuole fare una grande battaglia sulla sicurezza personale, allora, sulla praia e sulla proprietà privata. Sono d'accordo sul fatto no. di candidare persone per io non sono d'accordo, ma dipende. Vabbè, sentiamo Siciliano, non è quello. Comunque l'ho candidato alla presidenza della Repubblica, figuriamoci se non lo voglio pure, se non lo voglio pure al consiglio comunale di Milano, cioè mi sembrerebbe. A parte che deve prendere le preferenze, per fortuna, appunto, la gente lo voterà in caso, no, tipo, con le preferenze va bene tutto, guarda, va bene tutto. Cioè io simpatizzo perché ho visto che nel periodo di crisi Berlusconi con le sue aziende, che poi sono dei suoi figli, però hanno avuto un attivo, un utile. L'Italia è un'azienda da gestire, noi abbiamo un patrimonio culturale, abbiamo le coste, cioè non riusciamo a far niente. Ragazzi, non mi toccate il coniglio. Ma viene sto autista? No, a prendere sto coniglio. Sennò è troppo tardi. Su, al forno deve essere fatto, spezzato, diviso in parti. Ma la testa, per esempio, con l'occhio che quasi vede come quello di un coniglio, di un coniglietto, quello che regaliamo anche con il coso, no? Regaliamo anche ai nostri figli, perché una delle motivazioni è questa, come lo regaliamo come peluche ai nostri figli e poi sì, lo cuciniamo. Ma che cazzo c'entra? Ma cosa c'entra? Non glielo faccio vedere qui a mia figlia. Ma sì, ma devi vedere la foto, ma ragazzi, però non bisogna essere ipocriti. Il coniglio si è sempre mangiato ed è sempre esistito, non è che muoiono i conigli, non è che scompaiono i conigli, dai, su, traffico, su, traffico. Cucù, scusate se vi ho disturbati. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta La Zanzara. Amici camionisti, ascoltate La Zanzara perché è un programma senza filtri. È tutto vero, non c'è niente di complottato. Allora ragazzi, in attesa, vabbè, facciamo così, è arrivato Parenzo, è arrivato a trovarmi di passaggio Antonio Razzi. Sì. Antò, vieni un attimo dentro, mi prendi sto coniglio, glielo porti un attimo giù, che tu sei più influente, sei più senatore, capito? Senatore della Repubblica, lo porta lui qui all'autista di Napoletano, così almeno lo dà sto ristorante. Antò, eccolo qua, entra nello studio, signor Razzi, scusami Antò se sì. ti faccio... Ecco qua, ma è vero che la testa del coniglio si può cucinare? Beh, noi in dialetto abruzzese diciamo la coccia. La coccia dello coniglio sotto lo coppo è la fine del mondo. Ma tua madre te la faceva, sì. Mia mamma mi faceva, cioè... me lo riservava, diciamo adesso in Italia, la testa del coniglio sotto al coppo che con la cenere su e col carbone sopra, sì. veniva la fine del mondo. Per cui si mangia anche la testa? Cavolo, è la migliore che c'è. La cosa più buona del coniglio è la testa. Io è la migliore perché lì prende tutti i sapori. Tutti i sapori della testa. L'autista di Napoletano aspetta, credo, cerchiamo di trovarlo un attimo. Grazie. Se non se lo prendi lui, me la riporto io a casa e me la mangio. No, domani. Deve andare al ristorante a fare cucinare, deve portare qua. Allora vuol dire che ce ne andiamo a mangiare al ristorante. Vabbè, vai, adesso vai. Allora, hai capito? La coccia del coniglio, come si dice in abruzzese, sì, pare. Sì. La coccia del coniglio. No, ma almeno mi sembra utile. Cosa, no, vabbè, adesso non esagerare, su, no, ha fatto un piacere. Non facendo un cazzo in Parlamento, almeno. Ma non no. è vero che non fa un cazzo in Parlamento, dai, no, su. Ma dico, questo hai trovato un ruolo giusto. È vero che 12.000 euro per portare un coniglio a ma un dai, ristorante. Non fare il coglione, dai, su. Però no, almeno si rende utile. Lo sai che gli amici dello Zoo di 105 lo prendono di mira, lo vogliono massacrare, gli vogliono fare uno scherzo, dopo facciamo sentire tutto. Bene, siamo qui, 800 24 00 24, però torniamo a parlare di autodifesa. No, ma un attimo, la notizia del giorno è che la Ravetto si sposa. Sì, però. Ma non me ne frega niente. Ma che alla gente, che cazzo gliene frega di quello che fa la Ravetto col signor Ginefra del PD? Non gliene frega no, una mazza. La cosa dire, importante, aspetta, è quello che succede in un paese del Bresciano a un signore che si chiama Giorgio Buffoli, che saluto e abbraccio. Buongiorno, buonasera, anzi, Buffoli. Buonasera. Come sta? Mica male, dai. Allora, cosa è successo nei giorni scorsi? Anzi, esattamente quando, Buffoli? È successo lunedì sera. Sì. Ero a casa, stavo guardando la televisione, verso le 11.20 mi arriva una telefonata di un conoscente. Sì. Mi ha detto, guarda che su dove è il deposito, ho su tre persone che vanno avanti e indietro, ti stanno rubando qualcosa. Dov'è esattamente? Un paese in provincia, allora, di Brescia? Qual è io il paese? Di casa abito in Termini, frazione di Rua Volciano, siamo 500 metri da Salò. 500 metri da Salò, sì, 500 sì. metri da Salò. E invece Vobarno è un 5 km dei Termini. È una strada, sì, ho capito. Io è la frazione. Lo faccio quando vado verso Madonna di Campiglio. Bravo, la strada vecchia andava a Madonna di Campiglio. Va bene, allora, che succede? Lei l'avvertono che sentono dei rumori nel suo magazzino, giusto? No, non dico che sento dei rumori, vedono tre persone che vanno avanti e indietro e non riescono a capire cosa stanno portando via. Lei va lì? Allora, chiamo mia moglie e ho detto, Manuela, sono su che stanno rubando qualcosa, che io sono importatore di pellet. Sì. E ho detto, strano che stiano rubando il pelo. La mia paura erano: mi stanno rubando qualcosa il camion, o altrimenti sopra abbiamo un supermercato. Per me stanno rubando il supermercato, fanno spolla qua, perché sì, il supermercato è sopra. Ho detto: ma noi la vieni su anche te? Sì. Allora cosa ho fatto? Ho aperto la fucigliera, ho preso sul fucile. Quanti fucili ha lei? Io 20 ne avevo, adesso non ho più neanche uno. Vabbè, adesso poi lo diciamo quella roba lì. Lei ne aveva 20 fucili, ma è tutto regolare, naturalmente tutto registrato. Tutto regolare, tutto. Ma lei è un cacciatore oppure semplicemente ha 20 fucili da collezione? Un cacciatore, dopo sono molti ricordi di mio bisnonno, mio nonno, mio suocero, mio papà. Sì, più tanti sono dei ricordi personali. Sì, cioè, quanti sono quelli che può usare, quelli che funzionano? Quanti sono? Tutti funzionano. Funzionano tutti. Lei ne prende uno e va verso il magazzino. 12, prendo sulle cartucce e ho detto a mia moglie che partiamo. Come siamo partiti abbiamo fatto 112. Sì. Il bello è che una volta, quando si faceva 112, l'emergenza, eravamo collegati alla stazione di Salò. Adesso purtroppo hanno fatto un sistema americano, come gli americani, che non sei più collegato a Salò, sei collegato a Bergamo. Il problema è uno, tanto che ti passa... Cioè, nel senso che passa un po' di tempo. Passa questo un po' di tempo. Vabbè, insomma, per riassumere, lei chiama il 112, arriva sul posto e spara in aria, mi sembra, no? Mi è caduta due volte la linea, ho chiamato la terza, in poche parole, io in 4-5 minuti da casa mia, che ero sul posto, dovevo ancora mettermi in contatto dai carabinieri. Mica per colpa dei carabinieri, per colpa del centralino. Del sistema che non va, secondo me, ha capito? Sì, già non va il sistema dei carabinieri, che è strano, naturalmente. Comunque, però, lei arriva lì. Va bene, lì è cosa centralina, una cosa nazionale. Arriva lì e spara in aria? Allora, quando vado giù, dove c'è un cancello, apro cancello, vedo uno che sta trafugando. Allora, cosa ho fatto? Quando ho visto che sta trafugando, ho sparato in aria, perché non so cosa sta facendo, non so se è armato. Allora, uno la sparo in aria, dopo vedo se mi gira che è armato. Mi comporto diversamente. E questo è scappato insieme questo agli altri? Questo qua è scappato. Allora ho detto: fermiti, altrimenti sparo. Ognuno ha sparato ancora uno e non si ferma. Dopo io sono anche caduto, mi sono rialzato. Mamma mia. Capannone. Sì. C'è come una penombra, facendo un po' di chiare. Vabbè, insomma, alla fine questi qua sono scappati. Prima ho visto che scappa giù verso il fiume. Sì. Allora sono corso giù e ho detto: fermiti che sparo. Ho sparato con dei colpi in aria e lui è scappato dal fiume. Per cui alla fine ha fatto scappare i ladri, questa è la sostanza. Sì, uno l'ho visto, gli altri due si vede che sono scappati prima. Senta, alla fine a lei hanno ritirato il porto d'armi e hanno ritirato anche tutti i fucili, o sbaglio? Tutti i fucili, sì. Tutti i fucili e pure il porto d'armi. Sì. Ma scusi, io so, ieri ho letto tutta la ricostruzione, ho letto anche più o meno qual è la legge per la quale le hanno sequestrati i fucili, eccetera. Cioè, non si può sparare in aria vicino a un centro abitato. Ma come si sono comportati i carabinieri con lei? Allora, io quando ho finito tutto che sono sparati così, ho detto a mia moglie che vorrei chiamare ancora i carabinieri in... 5 minuti dopo erano lì, in poche parole, hanno fatto questo. Sono venuti gentili così, come è successo... Avevo col fucile in mano, cosa fai con il fucile in mano? Ascolta, ho detto, stavano rubando, io ho detto, mi sono accorto dopo che mi hanno rubato il gasolio, ho sparato 4 colpi in aria. Sì. Mi fa, ma lo sai che non si fa? Dice, devo sequestrarti il fucile. Ma dai, per sparare in aria, no? Dice, perché il problema, dice, tu hai spaventato. Se c'era uno che si era legato, la colpa è anche tua. Quello lo vedremo, io ho detto. Cioè, che ti hanno detto? Ma scusa. Cioè, ti hanno detto una cosa. Il ladro che è scappato dal fiume. Sì. Il giorno dopo lo trovavano legato, un po' di colpa era la mia perché l'ho fatto scappare. Ma questo ti ha detto il carabiniere, te l'ha detto? Sì, sì. Niente, può anche darsi, dopo io mi difendo per la musica, è così. Invece è successo niente. Sì. Niente, sì. Dopo nel frattempo mi passa l'allarme che mi arriva sul telefono dove c'ho gli uffici dell'altra azienda che è avanti un 500 metri. Sì. Ho detto, non vorrei che stiano rubando, lo sono subito solo anche loro assieme. Poi si vede qualche animale o qualcosa, mi ha fatto scattare l'allarme. Vabbè, comunque, ritirato il porto d'armi e ritirati tutti i fucili. No, ma lì dopo cosa mi ha detto, guarda che per la legge, sta legge dice così, e tu mi difenderò. Ma tu neanche voi fate il vostro dovere, sono stati gentilissimi. Sì, no, ma questo non lo metto in dubbio. Nel frattempo, arriva il comandante con la macchina in borghese, non l'ho mai neanche visto io. Sì. Allora? Ma dov'è il problema? Allora? Questo qua, gli allungo la mano per presentarmi. Mi si mette a insultarmi, alzare la voce, ho fatto la voce anche io, un po' di rabbia, un po' di tensione, un po' di... Ma insultarmi, il comandante dei carabinieri ti ha insultato, dicendo cosa? Sì, perché ho sparato che non si può di qua di là. Ho detto, mi scusi, ho detto, per cortesia, come faccio a difendervi, sono giù che rubano, ho detto, non sono riuscito a mettermi in contatto con voi, come devo fare? E lui? Lei doveva prendere dei sassi e lanciarli. Sì, i sassi a lanciarli, sì, i sassi, che ci fai con i sassi? Il brodo ci fai con i sassi, dai. Con i sassi ci cucini, ci fai la base della brace del coniglio. Allora, dai. Dopo siamo andati avanti. Senti, ma tu spareresti in testa, in faccia, addosso a un ladro? Allora, siamo obiettivi. Sì, io ho sparato in aria per farli scappare. Sì, però se, venissero, se ti venissero addosso, che faresti? Se quello mi spara addosso mi difendo, ragazzi. È meglio spari, il processo spari. Fatto male che il funerale fatto bene, eh. Fermo lì, giornale radio. Beh, cari amici miei della Zanzara, siamo al top, eh. Siamo veramente al top. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta la Zanzara. Ma bisogna sentire il contatto bisogna sentire. Ciao a tutti, io mangio il coniglio fritto, mangio la ragosta bollita, la metto dentro, viva, e come dice i cecchini, viva piccia! Generalmente porto la bambina al supermercato, le faccio vedere il coniglio scoiato e la foto del coniglio da vivo e dico: Martina, il coniglio è bello, ma soprattutto è buono! Un bel coniglietto all'ischitana! Oh, è buona la testa del coniglio, non la buttare, si mangia tutto, tutto, tutto, c'ha le guance morbidissime, sai quando tu lo tocchi così non è solo pelliccia, c'ha anche proprio la carne morbida, morbidissima, buona, buona, la parte più buona forse è proprio la guancia. Ciao, buon appetito! Allora, caro David, pensa che oggi è venuta fuori la notizia che a Rozzano, vicino Milano, c'è un signore, il dirigente di un istituto scolastico, che ha vietato i canti di Natale. Ha vietato i canti di Natale perché i canti di Natale possono irritare i musulmani. E allora meglio non far irritare le famiglie musulmane. I canti di Natale, ovviamente ispirati alla tradizione cattolica. A me non me ne frega niente, io sono ateo. Se mia figlia va, che peraltro ha fatto anche la comunione, ma semplicemente perché no, la madre ha voluto così. Ma, vabbè, ma è giusto. Ma è normale, ma io non mi sono opposto perché non me ne frega assolutamente nulla di queste cose qua. Ma perché si sente anche. Ma vorrai che tua figlia abbia un'educazione di un certo tipo, no? No, non c'entra niente, con l'educazione è un'altra cosa. La fede a quell'età non si capisce nulla della fede a quell'età. Per cui ma è semplicemente una cosa. Che tua figlia abbia un'educazione ebraica. Vabbè, e ma tu, se tu vuoi che tua figlia. L'ebraico come lo conosco io, e poi scelga da grande se essere praticante e benissimo. Come esserlo. Vabbè, ma non è la stessa cosa. E comunque. Beh, è uguale. No, sì. Non è la stessa cosa. Comunque, a me non me ne frega niente se ha una istruzione. Qui non c'è l'educazione cattolica. Cioè, non vai, come no? Cioè, non vai in una scuola. Non vai in una scuola cattolica, vai in una scuola normale, non è una scuola cattolica. Infatti però si studiano molte cose afferenti no, alla cultura dominante. No, assolutamente come no. Ma quando mai? Ma tu puoi studiare Dante senza sapere nulla dei Vangeli, ad esempio, no? Ma o sì, della vabbè, cultura ma cattolica. Adesso però non entriamo in ma dettaglio di queste cose. È nel merito, tu puoi studiare Dante senza sapere sì, nulla di del cristianesimo, non credo. Sì, comunque la cosa fondamentale è che questi canti, anche se uno è ateo, anche se uno viene da una famiglia atea, non c'è niente di male a far partecipare un bambino ai canti di Natale. Vietarlo no, in nome. Io non sono contrario perché quando andavo anch'io a scuola. Ma vietare addirittura ma proibire. Proibire i canti di Natale. Ma dico, ma c'è bisogno di farlo nella scuola pubblica? Ma non che cazzo lo so, vuol dire? Ma se viene organizzata una cosa, non ci vai, non è che non la proibisci. Chi non ci vuole andare non ci va. Non è che proibisci ecco, i canti di Natale. Questo, sì, ma sì, certo. Ma mica uno è obbligato ad andare. Se una scuola organizza i canti di Natale. Se la scuola è pubblica, sia pubblica, no? Non capisco perché a te a voi, a molti no, di voi. A me piace la scuola. Il modello francese. Sì, esatto. In cui no, però attento, io vorrei in quello, Francia, ma non sono fa il canto di Natale. Sì, ma non hai capito ancora. Io sono per no, il modello. Non l'avete capito voi, cioè la contraddizione è, cioè a chi piace il modello francese che bandisce qualunque tipo di religione e di simbolo sì, a scuola, per cui non è che si fa la recettina di Natale in Francia. Sì, ho capito, ma se quindi la qual è il modello che volete sì, ma voi? Io voglio quindi voi voglio, di libero, voglio, voi della destra, ma voi la populisti. Libero, voi un cazzo, perché io non sono né di libero né della destra. Vabbè, voi populisti, voi che non credete vabbè in nulla, che modello volete? Non c'è nessun modello che voglio. Quello francese? Io a me piace moltissimo il modello francese, certo. Beh, e quello francese non si sa. Sì, si ma non c'entra niente. Se invece a Rozzano vogliono fare i canti di Natale, non è che vengo a fare le barricate in nome della laicità, non me ne frega no, niente. Ma mi dà a capire quale modello se mia figlia non lo vuole, se un figlio, se un ragazzo ragazzo vuole partecipare, partecipi. Non è che in nome della tolleranza nei confronti delle altre religioni si proibisce in una scuola di fare questa roba. È ridicolo, è ridicolo. E questo qua è un cretino, tra l'altro ex candidato di Grillo al comune stesso di Lozzano. Così, questo è un altro discorso. Ma Parenzo è italiano? Allora, a Roma invece hanno vietato i centurioni, c'è una delibera del prefetto Tronca, praticamente del nuovo commissario Tronca, che ha vietato i centurioni. Ora, io sono favorevolissimo a questa cosa, perché è diventata una pagliacciata, è diventata una piccola mafietta, non è regolamentato, e tutto quello che non è regolamentato è giusto che sia in qualche modo... Che non debba essere tollerato, per cui quando sento questi centurioni come facciamo a campare adesso, guadagniamo 2000 euro. Ho letto oggi un'intervista interessante in cui a fare quel lavoro lì si guadagna 2000 euro al mese. 2000 euro al mese, sì, 2000, pagassero le tasse almeno. L'ho letto su Repubblica oggi. Dici, vogliamo... 2000. Quando va meglio, guarda di più, perché nei periodi in cui c'è più afflusso turistico, Quindi stavo pensando di volendo, che non ho il fisico del centurione, ma volendo di arrotondare. Vai ad arrotondare facendo il centurione, fai quello che ti pare. Faccio il centurino, no? Il centurione, il... I centurioni dicono bentornati al nazismo. Ma questo poi c'è... Bentornati al nazismo! Questo è un nazismo! A lavorare gente che sta per guadagnarsi un pezzo di pane! Ragazzi, cambiassero mestieri questi qua, cambiassero mestiere, oppure arrivasse un regolamento comunale per mettere a posto questi signori. Non è che uno può fare le piccole mafiette davanti al Colosseo, come è stato dimostrato nel passato, così a gratis. Cioè, non si può fare questa roba qui, basta. Ha fatto benissimo il prefetto. Poi è vero che Roma ha altri problemi, dunque c'è chi dice, si è attaccata ai più deboli, no? Cioè, no, però è un inizio, perché anche senti Gasparri che ha detto. Urbano. Senti Gasparri che ha detto. Non vorrei che svestiti da centurione, essendo della gente disoccupata, non credo uno da grande dice faccio il centurione, sarà gente, alcuni sono anche stranieri. Devo dire che io ho fatto dei servizi in cui i vigili urbani dicevano che non si avvicinavano alle centurioni perché avevano paura. Perfetto. Quindi il clima era strano. Perfetto. Non a Roma, vorrei che adesso si mettano a rubare le macchine fotografiche ai giapponesi a cui chiedevano 10 euro, perché alla fine, insomma, non lo so, non credo che siano la creme della società, è gente che fa questo perché non ha paura. Ma lei dice non è... Il dirigente scolastico di Lozzano si chiama Parma. Senti, dice il concerto poteva essere preso come una provocazione pericolosa. È questa la cosa insopportabile. Io sono a favore del modello francese in cui le cose religiose in una scuola non ci devono essere, di principio. Dopodiché poi non è che possiamo togliere i crocefigli. Io sarei anche per togliere tutto, ma se una scuola organizza un concerto di Natale, per quale motivo lo devi proibire tu arrivando così dal nulla? Certamente, se noi avessimo organizzato un concerto a base di canti religiosi, dopo quello che è accaduto, forse qualcuno poteva interpretarla come una provocazione, forse anche pericolosa. Cioè, i concerti di Natale ispirati a canzoni religiose, eccetera, come provocazione, ma ti rendi conto della coglionaggine di questa cosa? Ma è una sciocchezza, basta, è una sciocchezza, punto. Allora andiamo a Roma, Federico, vai. Pronto? Dimmi. Ciao Cruciani. Dimmi. Allora, io volevo provare a fare un ragionamento insieme a te e a Parenzo. Sì, veloce però, Sì, sui vegani. Sì. Allora, partiamo dall'assunto che i vegani distruggeranno gli animali, secondo me. Il discorso è questo, ascolta. Noi non riusciamo, come esseri umani, a sintetizzare la cellulosa. Cioè, non possiamo mangiare l'erba. Va bene? Visto che non possiamo mangiare l'erba, dobbiamo dividere il territorio, il terreno con gli animali. Noi, loro mangiano l'erba, sintetizzano la proteina, noi mangiamo gli animali. Nel momento in cui passasse il ragionamento dei vegani e noi non mangeremmo più cadaveri, che succede? Abbiamo bisogno di quel territorio perché dobbiamo coltivare i cereali, dobbiamo coltivare tutta quella roba che è alternativa alla carne. E allora? E gli animali dove li mettiamo? Cioè, tu dici che un mondo senza gli uomini che mangiano la carne sarebbe, Noi, io ti dico che siamo noi sì, che consentiamo ai vegani. Io sono d'accordissimo, tra l'altro, loro non vogliono mangiare carne, sti cazzi, facessero quello che vogliono, ma non possono rompere le palle a me che mangiando carne gli consento di amare gli animali. Cioè, capisci cosa perché cosa... altrimenti se tu non mangiassi la carne, cioè, loro sarebbero sopraffatti, dici. Il territorio è dato, il territorio è dato. Sì, ma cioè, certo, ma è una follia. Un mondo vegano è un non esiste in natura. Un mondo senza animali non è possibile, perché i prati, tutto quello che è prato pascolo, tutto quello che è il territorio dove gli animali vivono, i boschi e le cose, noi avremmo bisogno di quella parte del territorio. E visto che siamo all'apice della catena alimentare, purtroppo in natura è così. Sì, sì, certo. Ho capito, ho capito, Federico, ciao. Abbiamo bisogno dello spazio. Sì, Luigi Torino, vai, Luigi. Sì, ciao, l'argomento è quello della difesa. Sì. Promesso che siamo d'accordo sulla difesa, chi entra in casa, amica, va colpita, i familiari vanno protetti, però volevo raccontare un episodio successo veramente da conoscenti, familiari. Che è successo? Tra due fratelli, fratello 1, dicevo piano, scende con la bambina Tania alla macchina, lascia la moglie a casa che finisce di prepararsi, non la vede arrivare, la chiama, non la trova, si ricorda che salivano le scale delle persone poco raccomandabili. Non so perché chiama anziché la polizia, il fratello che abita nello stesso quartiere, quello viene, si precipita, sì, nel mentre lui risale in casa, il fratello scende in macchina, già armato, sotto c'era un palo, il palo... Sì, però sintetizzami, Luigi, sintetizza, che succede? Scende giù, fratello numero uno, tre colpi della pancia, fratello numero due, inseguito in strada altrettanto, il primo è sulla sedia a rotelle, il secondo ancora un colpo vicino allo spino dorsale. Detto questo, per tutti coloro che dicono io sparo, devi saper sparare, perché se non sei mai stato abituato a farlo... No, no, ma tutto torna. Che è successo ai tuoi parenti allora, alla fine? Uno è rimasto sulla sedia a rotelle. E l'altro è vivo, però ha ancora un colpo di fianco. Ma inchieste, alla... inchieste, cose, no? Cosa? Inchieste, problemi giudiziari. Sì, poi, per carità, poi alla fine anche quello, ma quello è secondario rispetto al danno fisico che è stato devastante. Cioè, se non sei cattivo dentro, il cattivo lo ricevi in casa prima di reagire, è veramente complicato. Anche se io difendo la libertà di usare le armi e sono contro... Vabbè, ma è chiaro, tu fai un ragionamento, scusa, abbastanza scontato, scusami se te lo dico, Luigi, nonostante il dramma che hai vissuto. Il ragionamento scontato è questo qui, cioè uno prima di usare un'arma la deve conoscere di che si sta parlando. Fermi là. Mi sei simpatico perché la pensi come me. Investi in fondi? Solo con Online Sim scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissione d'ingresso. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Saxo Bank, la banca del trading e degli investimenti. La Zanzara. Si voglio approfittare della presenza qui di passaggio del senatore Razzi. Parenzo, che cazzo stai facendo? Scusami. No, c'è da arrivato Davide Romano. Ma non me ne può fregare di meno, mettiti in un'altra stanza, dobbiamo fare la radio qui. Amico mio, dobbiamo fare la radio, non è che possiamo cazzeggiare. Cioè, cazzeggiamo ma la radio, non a casa di gente, non me ne frega nulla. Ho capito, amico mio, dobbiamo fare la radio noi. Roba incredibile, guarda. Allora, approfitto del passaggio. Non ti devo salutare perché hai detto che è un ebreo, quindi ho detto, ma non c'entra nulla, dai. Su. Voglio approfittare del passaggio di Razzi qui, perché nei giorni scorsi. Ma Razzi è venuto lì perché ha niente da fare, adesso diciamo. No, è stato in una trasmissione, poi deve prendere l'aereo per pescare alle 10 di sera. E dunque è venuto qui a andare a casa dalla moglie. No, l'aereo alle 10, che deve fare? L'aereo alle 10, scusa. Non ti preoccupare, che mia moglie mi aspetta. E mi aspetta e mi abbraccia con tutto il suo cuore. No, capito, ma perché torni alle 10? Vuol dire che alle 11 a mezzanotte sei a casa, scusa. Vabbè, qual è il problema? Non che problema c'è? Io sono venuto a lavorare a Milano. Vabbè, comunque, lavorare, lasciamo perdere queste cose. Nei giorni scorsi lo Zoo di 105 l'ha preso di mira gli amici dello Zoo. È facile prendere di mira Razzi, non è molto complicato, diciamo, no? Cioè, c'è una lunga letteratura su questo. Ti facciamo ascoltare alcuni pezzetti. Poi abbiamo il focone, minchia Razzi, ragazzi. Razzi è una roba. Come si fa a pagare uno come Razzi? Cioè, vabbè. Razzi. Madonna mia, Razzi. Che ha fatto anche il video, ma l'avete visto il video? Siete andati a vedervi il video? Cioè, ma è una roba, è veramente un insulto all'intelligenza umana quel video. Della serie non mi rompete i coglioni, lasciatemi inculare i soldi che c'ho i cazzi miei da fare. I razzi miei. E poi annunciano, faremo uno scherzo a Razzi, amici dello zoo! Dobbiamo fare uno scherzo a Razzi, ragazzi, bisogna studiarne uno bene. Oggi pomeriggio ce lo studiamo, dobbiamo ammazzarlo, dai, vi prego. No, non si può. Dobbiamo sfruttarle bene queste cose, mica ma tu ti rendi conto che questo c'ha il biglietto da visita con scritto Senato? C'è una roba, non è possibile! Io a quello non gli darei neanche la responsabilità di pulirmi il cesso. Io non capisci? Ci farei neanche i filtri con quel biglietto da visita, guarda. Mamma mia. Caro Mazzoli, ti faccio rispondere qui dall'uomo, no? In carne e ossa, qui davanti. Che vuoi dire? Conosci questo signore? Io non lo conosco e non ho mai il piacere di averlo veduto e non lo vedrò mai sicuramente, perché a me della sua radio non me ne frega un cazzo. Dillo. Comunque io sul mio biglietto da visita ci posso mettere quello che mi pare e ci posso pure mettere che io col fisco sono pulito. Perché? Ma non so quanti altri ci possono mettere che non ha niente in pendenza col fisco. Ma perché, che è un riferimento al signor Mazzoli, no? No, non lo so, dico a quelle che magari hanno problemi col fisco. Io non ce l'ho, io sono un uomo pulito e te lo dico da amico caro. Ma ti sei incazzato per questa cosa? No, io assolutamente. Ti vogliono fare uno scherzo pure. Ma lo scherzo lo farà a quelle che vogliono stare, o magari lo farà. Stai attento col telefono nei prossimi giorni, stai attento col telefono. Ma sì, ma guarda, sai quante persone mi chiamano, ma tanto io se non lo vedo personalmente, a me quelli che mi chiamano per telefono non me ne frega niente. Io lo voglio vedere dal vivo. Quando ce l'ho di fronte allora rispondo, se no altrimenti chiama a sua sorella e glielo dice a sua sorella. Che c'è, Parenzo? Che c'è? Ma dico che è uno scherzo, che non la faccia così lunga. Quelli hanno fatto la grande campagna contro Razzi, indegno di stare in Parlamento. Ma quale campagna? Ma sono gli amici dello zoo, è una ma lo zoo ci vanno gli animali, io non sono un animale. Ma io è una trasmissione radiofonica. Ma lì ci puoi andare tu, caro Davide. Tu ci puoi andare allo zoo. Perché non puoi andare allo zoo? Perché dici non sei un animale? Perché c'è? Ma io sono. Loro vogliono averti là così. Io sono un abruzzese vera. Verace. Potresti andare a farti massacrare lì o no? Ma io vado là, me la massacro io loro. Ma che cazzo? No, scusa l'espressione. Ciao Antonio, devi partire. Ciao, l'aereo, devo partire. Ciao, buona serata a tutti. Allora ragazzi, andiamo, forza. Luigi Torino. Luigi Torino, quello di prima. Dai, Lucio da Napoli. Lucio Cruciani? Dimmi Lucio. Ciao, ti chiamo, io sono vegetariano da 12 anni. Sì. Ti dico, giusto, i vegetariani contro cui tu ti scagli mi stanno sulle palle anche a me, quindi sfondi una porta aperta, però ci sono, diciamo, diversi tipi di essere vegetariani, diversi modi. Io penso semplicemente questo, che per essere vegetariani non bisogna necessariamente dire non voglio fare del male all'animale, eccetera. Io anzi sono a favore, nonostante non mangio carne da 12 anni, però il discorso è la mercificazione. Tu prima hai detto il coniglio lo si regala, piuttosto però che c'entra non lo la mercificazione, mangia. Scusa, cosa c'entra? Nel senso che nel momento in cui la carne diventa una merce di vendita, ma per forza, che devi fare con la carne degli animali? Te la mangi da quando... te la mangi. Tu sei vegetariano, però... fai le tue scelte, io ti rispetto, basta che non mi rompi i coglioni a me. Cioè, no, ma non è un fatto di basta che non mi consideri un assassino, basta che non mi consideri uno sfruttatore di ricerca, uno sfruttatore di... No, ma ci considerano quelli che abbiamo sentito, moltissimi sfruttatori delle risorse umane, affamatori di non so che cosa, gente che vive male. Queste sono persone che fanno male al mondo dei vegetariani, cioè sono dei fanatici. Sono la stragrande maggioranza, perché non puoi essere integralista se sei vegetariano o vegano, capito? Non sono vegano, sono vegetariano. Io ti assicuro che queste persone non sono la maggioranza dei vegetariani, sono solo dei fanatici che non fanno il bene di questa scelta di vita, di questa filosofia. Vabbè, perché Lucio, ho capito, appunto... ho capito, grazie. Stefano da Varese, vai Stefano. Ciao. Stefano. Cruciani e Parenzo, buonasera. Allora, io volevo farvi una proposta. Io volevo vietare nella maniera più assoluta i social network ai politici per le dichiarazioni di carattere politico. Perché non è assolutamente possibile che nel 2015 ci sia un'istigazione di questo tipo su Facebook da parte di certi personaggi come Salvini e altri politici di questo tipo nei confronti di praticamente di tutto. Non ho capito, scusami, spiegami. Bisogna, a mio parere, vietare nella maniera più assoluta i social network ai politici. Ma che cazzo perché dici? Dai, Stefano, vietare i social network ai politici? Ma di che stai parlando? Sì. Ma follie totali. Sì. Ma che vuol dire? Ma non è che puoi vietare ai politici i social network? No, c'è chi li usa, c'è chi non li usa. Per le dichiarazioni di carattere politico. Sì, però, vabbè, ma chi lo decide questo qua? Quale tribunale? Quale organo superiore? Fatto, chi? Perché veramente si va contro la civiltà in generale. Ci sono veramente episodi anche nei commenti, si può scusami, Stefano, abbi pazienza. Pieni d'odio, di violenza nei confronti delle persone. Ma non perché ma non solamente sui social dei politici ci sono. Quello di cui parli tu, cioè i commenti di odio, eccetera, è una roba che c'è ovunque, che c'entrano i politici, scusami. No, ma per me Facebook, come qualsiasi altro social network, è attualmente il mezzo di comunicazione più potente. Senso, ma è una cosa che non ha senso poi. Ma che vuol dire vietare i politici? Non vuol dire niente, c'è chi è sui social, c'è chi non c'è, dei politici, c'è chi li usa, c'è chi non li usa, ognuno è libero di fare quello che vuole, vietare. Sì, ma non per espressioni di carattere politico. Ma, vabbè, odio e violenza. Ma non vuol dire nulla, Stefano, non abbiamo capito nulla e non vuol dire nulla. Davide da Verona, dai. Davide. Non vuol dire niente. Davide. Niente. Lorenzo, provincia di Lecco, dai. Ciao Cucciani. Dai, dimmi. Io sono quel cattivone che ha fatto il video insieme a Razzi, sono quella persona cattiva che sono con lui, sono l'ambrenedetto, l'ho visto un'oretta fa Razzi. Oh, grande Lorenzo. Sì, l'ho visto. Ma non andrà allo zoo, no, te lo dico. Viene, fidati, no, l'ho visto. Non viene allo zoo. Lo so, l'ha presa un po' male, Non va allo zoo, non gliene frega un cazzo. Lo so, sono un po' cattivelli. Sì, ma di a Mazzoli di chiamarmi se vuole che venga allo zoo, va. Bravo, glielo dico a lui, allora dopo gli mando WhatsApp. Ascoltami un attimo, ma non ci va perché gli fanno un culo così, perché... Lo so, però ci andiamo insieme io e lui, vedrai che ci andiamo insieme. Ma dove va? Non viene. L'ho visto, l'ha presa male. Ma ti dice di sì così, ma non va. Lo so, perché lì lo massacrano veramente. Io sono il suo manager, di Amazzoni, io sono il manager di Razzi. Ti faccio chiamare da Amazzoni. Vabbè, che vuoi Lorenzo, dimmi. Ti ho chiamato un attimino per parlare di figa e conigli, allora ascoltami a me. Facciamo una cosa, io ti prendo un sabato mattina e ti porto in Germania con me e ti faccio divertire. Amico, okay? Ma come cazzo faccio a venire in Germania un sabato mattina? Non ti preoccupare, un sabato mattina vieni con me e poi torniamo. È vero che è pieno di bordelli, dunque è buono la Germania? È pienissimo. Vieni su dalle mie parti, ti porto in qualche posto a divertirti 4-5 ore, poi ti porto io la domenica da madre che Bergamasca ci fa una bella pulita e coniglio alla faccia di tutti i vegani e vegetariani, fidati. Vabbè, allora? Ah, perché... Niente, ti ho chiamato solo per quello. Perché tua madre è tedesca? Non è che ti faccio divertire. Scusa, Lorenzo. Facciamo capire... Dimmi. Lorenzo, perché tua madre è tedesca? No, mia madre è bergamasca. Per cui aspetta, la tappa potrebbe essere questa. Tua madre fa la polenta. Mia madre fa la polenta la domenica. Noi al sabato prima andiamo in Germania 5 ore e poi torniamo la domenica mattina, a mezzogiorno ci prepara la polenta e ti porto a Milano. A parte fidati. Lo stress, ma in Germania che ci andiamo a fa? Ci andiamo a divertirti, fidati. Andiamo in uno di quei posti con 50 fighe nude. Ah, siamo veramente al top. Ciao Lorenzo, ciao, a presto. Ciao, saluto, un abbraccio. Ciao. Saluti, malvissuti. Prima tappa della grande scalata al Quirinale di Francesco Sicignano. Buonasera, ciao Francesco, come stai? Ciao guerriero. Come andiamo? Bene, tu? Beh, non c'è male, me la cavo, sono molto contento che tu ti sei candidato, non me ne frega niente. Ora va trattato come un politico, quindi non ha più, diciamo, quel rispetto che poteva avere il protagonista di un caso di cronaca, va trattato come un politico. Francesco. Io preferirei sempre essere trattato come una persona, comunque va bene. Vabbè, ormai, no, ormai una volta... Non è che ti voglio trattare male, ma dico, il rispetto che uno ha per una persona che era protagonista e testimone di un caso di cronaca, ora viene meno perché sei un protagonista della politica e quindi vieni trattato come tale. Ma allora, dovremmo prima cominciare a fare la politica e poi vedere cosa viene fuori. Beh, intanto vediamo, insomma, ancora... qualunque cosa oggi tu dica viene letta in un... ovviamente è una cosa normale, questo non c'è dubbio, questo non c'è dubbio, ma lo sa pure lui, ma lo sa pure lui che non c'è nessun problema, ormai ho capito come funziona la medaglia, ha sempre due facce. Ma sì, dai, comunque la notizia di oggi è che Francesco Siciniano, che da qualcuno viene soprannominato sul web, sto leggendo, il killer di Vaprio Dadda. Cioè, chi attacca la decisione di Forza Italia di candidare Siciniano al comune di Milano, dice Berlusconi candida il killer di Vaprio Dadda. Ti piace questa definizione? Tecnicamente, oppure comincia la battaglia. Quello che scrivo non me ne frega niente, perché vedo che tanto di cazzate, chi più ne spara e più ne scrive... cioè non è che mi tocca più di tanto, ognuno è libero di scrivere quello che vuole. Tu non ti senti un killer? Ma assolutamente no, ma scherziamo. È uno che ha difeso, diciamo la verità, io su questa cosa concordo pienamente. Beh, diciamo che è curioso, uno spara per difendersi, uccide e poi finisce in consiglio comunale. Beh, è una carriera finisce allora, ascoltami, io direi una cosa. Finisce candidato, ovvio, insomma, sì. Allora, io direi una cosa. È una carriera interessante, allora. Una volta uno faceva, che so io, l'intellettuale, l'operaio, qualunque tipo di mestiere. E adesso uno ha avuto il cosiddetto merito di sparare a un criminale, a uno che gli stava per rubare in casa. C'è un'indagine in corso per la quale lui è indagato e lui viene candidato in consiglio comunale. Beh, è interessante, uno spara e ti candida. Vai Francesco, rispondi a Parenzo. Ascoltami, c'era qualche ora che prendeva gli uccelli e si è candidato lo stesso. C'era qualcuno che prendeva gli uccelli e si è candidato lo stesso, chi era? La cicciolina, chi era? Sì, quello è vero, sì. Lo dice. Allora, non so, non ho capito che sono peggio della cicciolina. Se lei si paragona all'onorevole Staller, no, benissimo. Attenzione, lui dice... Non mi paragona, che ci è arrivata lei, non vedo che ci posso arrivare io. Allora, lo sai perché ha ragione? No. Meglio chi li prende piuttosto che gli spara. No, ma lo sai perché ha ragione Siciniano? Perché... Non lo sento bene, sottofondo. Aspetta, lo sai perché ha ragione Siciniano? Siciniano ha ragione per un motivo molto semplice, perché vuole dire c'è chi è arrivato in Parlamento prendendo gli uccelli come la signora Cicciolina, in realtà per dimostrare all'epoca i radicali la loro libertà, eccetera, eccetera. Lui invece vuole fare una battaglia che è quella della sicurezza e quella della proprietà privata, eccetera, eccetera. E dunque il primo passo è quello di andare al Consiglio Comunale di Milano, per cui non vedo qual è il problema, Parenzo. Cioè, mi fa ridere questa politica che prende un signore protagonista di un caso di cronaca, peraltro ancora da chiarire come sono andate le cose. Cioè il... Non ho capito chi è che parla lì assieme a te. Però Parenzo, Parenzo. Tu ascoltami. Francesco, dimmi, Francesco. Cruciani, perché sento un po' male, Parla lì sottofondo, no? Sì. Se fa fare un muro, chiamerà un muratore, giusto? Sì, certo. Allora, se in questo caso sulla sicurezza, io che l'ho vissuto sulla mia pelle, penso di essere un po' più esperto di quel signore lì che parla, perché altrimenti quel signore lì che parla può invitare tre malviventi all'1:15 di notte a casa sua, si fa la sua esperienza e poi discutiamo a darmi pari, altrimenti lui non è in grado di parlare con me. Capito, Parenzo? Devi farti rapinare. Con tutto il rispetto per il signor Siciniano, protagonista di un caso di cronaca, è una stronzata. E glielo dico visto che lei fa il politico adesso. No, io non faccio il politico. Sì, lei fa il politico. No. Lei è finito in quella lista perché ha sparato ad una persona, non perché è un bravo politico, non perché ha sparato e quindi è diventato il simbolo di una battaglia. Fammi rispondere a Siciniano su questo. Stai dicendo lui è finito in quella lista perché ha sparato. Ho capito, mica te puoi fare un comizio. Aspetta, fai rispondere. Ma sto rispondendo a quel che mi ha detto. Comunque va bene, dai. Vai. Francesco, come rispondi a questa domanda? Allora, io sono finito in questa, diciamo, politica, perché se vado in giro a parlare da solo non mi dà retta nessuno. Ho ponderato e ho detto i valori a mio avviso ci sono, ho fatto un ragionamento logico mio, che è inutile che lo facciamo adesso al telefono che ci vuole mezz'ora, e ho deciso di fare questo, perché altrimenti io vado in giro a parlare e nessuno mi ascolta. Io invece pretendo che mi ascoltino, perché la mia esperienza non deve capitare ad altri, perché se un mese fa qualcuno avesse fatto un po' po' di pulizia in questo territorio dell'Interland, sì, come io avevo suggerito, alcuni casi non succedevano. Ma pulizia che, pulizia che vuol dire secondo te? Fare rastrellamenti? Ho detto che vuoi fare dei rastrellamenti, che vuol dire? Il rastrellamento, allora, i giornalisti sono bravi a prendere il rastrello, il rastrellamento, la gnocca, quelle cose. Allora, il rastrellamento che io intendo vuol dire che un contadino che va a rastrellare la campagna, la terra prima di seminarla, la rastrella, trova un sasso e lo tira via. È la stessa cosa sul territorio. Noi rastrelliamo, troviamo un delinquente, lo mandiamo a casa in carcere. Ma è, non è così semplice la cosa, però, Francesco. Cioè, certo non è così semplice, ma se non lo fai, cioè, non è tutto semplice. Le perché posso, in questo paese non è semplice nulla. Le posso, caro siciliano, da pestiare, vabbè, la lasciamo perdere. Vai. Le posso sommessamente ricordare che lei è semplicemente candidato in consiglio comunale, non è candidato a fare il ministro degli interni. Quindi che cazzo sta dicendo? Lei fa il consigliere comunale, non alzerà una mano e dirà degli interni, e quindi lei che rastrellamenti vuole fare? Di che cosa parla? Di che parla? Io lei sa cosa hanno fatto i carabinieri in questo mese? Mamma mia. Lei lo sa cosa hanno fatto i carabinieri in questo mese? Che hanno fatto? Che hanno fatto? No, me lo dica lui se no, non lo sa, non lo sa. Hanno fatto un rastrellamento a tappeto, ma purtroppo loro non possono arrivare dappertutto. Sono arrivati nei locali che c'erano 30, 40 albanesi, rumeni, marocchini, tutto il giorno a giocare macchinette, a spendere soldi. Dove cazzo li prendono non lo sa nessuno. E a questo punto quei bar lì oggi sono vuoti, chissà perché. Allora se noi aumentiamo questo controllo del territorio, poi lo chiami il ferramento, lo chiami andare a tirare la rete, lo chiami come cavolo volete, basta che si faccia qualche cosa, perché poi chi rischia la pelle non sono quelli che sono lì a scrivere panzanate, sono quelli che stanno a casa a dormire in pace. Questa è la verità. Senti, ma i due che sono, quanti sono quelli che sono scappati da casa tua? Due. Ma che fine hanno fatto? Ancora non si trovano? Ma io al momento non so ancora nulla. Ma so che hanno ammazzato un albanese qui a Treviglio settimana all'altra. Cioè, se fossero morti sarebbe meglio, diciamo. Se si ammazzano. Io guardo, io non auguro di morire a nessuno. Io mi auguro che la gente deve capire, questo paese deve dimostrare di essere serio. Oggi non è serio. Deve dire il diritto alla proprietà è inviolabile. Ma quello nessuno è. Deve entrare nella proprietà privata, perché io in casa degli altri non ci vado e non voglio che nessuno venga a casa mia. Senti, ma se uno entra nella proprietà privata si becca 5 anni e se li va a fare, perché altrimenti può andare un'altra parte, non deve venire a casa mia. Francesco, questa è la verità. La gente vuole stare sicuro in casa sua. Io dopo 50 anni che mi sono rotto i coglioni a lavorare e ho fatto questa casa che era il mio sogno nella mia vita, oggi si vieni qua, mi trovi dietro le spalle come un carcerato. Non mi sta bene questo discorso qua. Io finché ho fiato urlerò, poi la pensate come volete, politico, non politico, chi... scrivete tutte le panzanate che volete, a me non me ne frega una massa. No, ma io sono dalla parte tua, cioè io dico hai fatto benissimo a candidarti, fai benissimo a fare questa battaglia e secondo me, adesso magari mi fai una piccola rivelazione, hai fatto bene anche a sparare a qualcuno che non era entrato a casa tua. Non so a che punto sono le indagini, se lo puoi dire o non lo puoi dire. Anche, è chiaro se, che non era anche, casa tua. Anche se avessi sparato a uno sul pianerottolo, anche se avessi sparato a uno allora, che sta. Allora, aspetta, ho la pubblicità, Francesco, un attimo solo, pubblicità. Ho sognato Parenzo che si faceva il bidet dentro il cesso di un autogrill mentre come un ragno si aggrappava alle pareti e armeggiava con questa bottiglia d'acqua naturale, intanto tossiva e si bagnava dappertutto. Grazie, stronzi. La Zanzara. A Crucià, non siamo a Radio Maria, Per favore, parliamo di figa. Figa! Popolo di Radio 24, segatevi almeno due volte al giorno. Allora, tra l'altro, si è concluso il processo, non so a che grado siamo, credo primo grado, se non sbaglio, per l'uccisione di Raccagni in provincia di Bergamo. La vedova Raccagni è stata nostra ospite qualche volta qui a Radio 24, anzi no, qualche tempo fa una sola volta. Hanno preso per l'uccisione con una bottigliata in testa, credo che fosse il proprietario di un locale, una bottigliata in testa che lo ha ucciso. hanno preso dai 10 ai 13 anni, cioè voglio dirvi che la vita di un uomo, la vita di un uomo vale dai 10 ai 13 ai 14, non mi ricordo, anni di galera. Troppo poco. Raccagni. Vedendo come hanno potuto fare una cosa così, ho anche paura, ho un negozio, ho dei figli da proteggere e ho anche paura di loro. Tra pochi anni questi sono fuori e io non so che reazione avranno. È una sentenza molto amara, la vita di un uomo non può valere 10 anni di carcere, 10-12 anni di carcere, che poi con gli sconti di pena che avranno non li faranno neanche. È così, ragazzi, non so che è successo, mi hanno spiegato che praticamente hanno preso una pena, che non dico lieve, ma comunque molto, molto piccola rispetto alla morte di una persona. Che praticamente la bottiglia non c'era l'intenzionalità di uccidere. Lanciando quella bottiglia o colpendo quell'uomo con la bottiglia. Cioè, vi rendete conto? La vita di un uomo vale dai 10 ai 13, 14 anni di prigione. Ma vi rendete conto di dove siamo arrivati? Invece dell'ergastolo immediato. Però, ragazzi, è arrivato il coniglio. Allora, mi portate per favore questo coniglio, questo piatto favoloso di coniglio al forno con le patate, questo assaggio di coniglio al forno con le patate, perché non l'abbiamo potuto preparare tutto, naturalmente, no? Ma chi l'ha riportato sto coriglio? Un signore che non so se posso fare il nome, perché naturalmente gli animalisti poi rompono i coglioni. Possiamo fare il nome? Ma sì, facciamolo, dai. È un ristoratore di Milano, dei Navigli, una volta abitavo sui Navigli, che si chiama il Coniglio Bianco. Coniglio Bianco sui Navigli. Un signore che si chiama, Gian Piero che mi ha portato il coniglio. Aspetta, appoggiamoci qua. Mamma mia, che odore fantastico, ragazzi. Cioè, il coniglio favoloso. Ma tu fai proprio il coniglio, perché il ristorante si chiama il Coniglio Bianco. Esatto. Il Coniglio Bianco, dunque invito tutti ad andare al Coniglio Bianco, ovviamente. Mi ha portato questa roba favolosa di coniglio. Come si fa sto coniglio? Vieni qui. Metti qua, parla qua, nella maniera più semplice, senza complicarsi la vita. Un po' alla ligure, un po' di pinoli, eccetera, sì, eccetera. Rosolato, l'importante è che sia ben rosolato, e poi dopo si cerca di ammorbidire. Comunque. Senti, adesso... ma che cosa pensi dei signori vegani? Così, proprio velocemente, rapidamente. Proprio senza... stanno distruggendo la natura. Non abbiamo più piante, non abbiamo più nulla, cioè, cominciamo a avere problemi di ossigeno. Qual è quella battuta sui vegani fantastica? Sì, è famosissima. Dai, dimmela. Ammazzi un vegano e salvi una pianta. Però noi non vogliamo ammazzare nessuno. Assolutamente. Non vogliamo ammazzare nessuno, siamo persone pacifiche, eccetera, eccetera. Un'ultima cosa, ma questa cosa che vogliono proibire, per esempio, tu chiuderesti? Oppure dovresti cambiare nome? Ma cioè, vogliono proibire il coniglio sulle nostre tavole, impedire che il coniglio arrivi sulle nostre tavole. Ma no, ma il problema è avere un'identità. Cioè, voglio dire, se io vado al calzolaio non posso chiedergli un etto di mortadella, quindi che vadano dove si possa mangiare vegano. No, vogliono impedire il coniglio perché lo paragonano al cane, al gatto, capito? Cioè, tu che ti chiami ristorante Coniglio Bianco, cucini il coniglio, potresti cucinare tante altre cose. Vabbè, userò solo il riferimento ad Alice. Ah, così, no, cioè, ti adegui, sì, così. Cercherò. Ma no, ma che cercherà? Bisogna fare una battaglia per impedire questa follia. A Vicenza, a porte chiuse, mangiano i gatti, voglio dire. Non è che voglio dire. A Bari mangiano i datteri a porte chiuse, c'è l'arresto, eppure se si chiudono le porte si mangiano i datteri. Grazie, ciao, presto, ciao. Parenzo, vuoi assaggiare? No, io non mangio il coniglio per religione, però no, mamma mia, tu questo per religione, gli altri perché è un animale che deve essere paragonato ai cani. Ma non disturbo a nessuno. Allora, aspetta un attimo, che me lo mangio. Aspetta un secondo. Aspetta, fammelo assaggiare un po', fammelo assaggiare. Mamma mia, voi non sapete che odore che fa. Cioè, c'è un odore favoloso. Tra l'altro, questi del ristorante, ovviamente grandi ascoltatori della Zanzara, abbiamo portato questo coniglio. Grande marchetta. No, al ma che marchetta? Ma che marchetta? Guarda, ragazzi, ma non avete portato una cosa? Mi prendete una forchetta? Ma come cazzo mangio? C'è la forchetta, mi ha portato tutto. C'è la forchetta, eccolo qua. Mamma mia, ragazzi, non avete idea di che odore favoloso c'è. So che molte persone sono in macchina, eccetera. Vabbè, hai svoltato la cena, dai. No, vado a cena, poi una cena seria, lo sai, no, stasera. Però no, aspetta. Non lo so. Sì. Cena c'è? La cena con i grandi ascoltatori, aspetta. Ecco. Fantastico. Coniglio favoloso. Veramente buono. Coniglio con le olive, vedo anche dei pinoli, giusto? Ci sono dei pinoli? O sbaglio? Ah, pinoli, fantastico, patate arrosto. Sono, ha detto, che quegli ossettini piccoli che ha il coniglio non ti vadano per attraverso, vero, e muori soffocato. Ma come si fa a voler proibire una cosa del genere? Qualcuno vuole anche il carcere. Il carcere. La signora Brambilla voleva il carcere una volta. Oh, roba strepitosa, vi dico adesso, voi siete invidiosi, magari alcuni sono a casa. Queste cose di solito nella classica radio non si fanno, no? Invece io mi mangio il coniglio perché mi hanno rotto i coglioni. La LAV e questi che vogliono proibire il coniglio paragonandolo al cane e al gatto. Ma di che parliamo? Il coniglio è una grande tradizione culinaria italiana, una grandissima tradizione culinaria italiana che va mantenuta. Non ci rompete il cazzo. Volete andare in piazza? Ma andate in piazza per qualche altra cosa. Protestate se proprio dovete andare in piazza perché non avete niente da fare dalla mattina alla sera, se non fare la propaganda sugli animali, che va benissimo, per carità, la protezione, il maltrattamento, eccetera. Fatelo. Passate un sabato, una domenica in un altro modo, non proibire questa cosa fantastica, è una cosa strepitosa, buonissima, fantastica. Io i conigli li adoro, ma non è che si estinguono i conigli se uno li... cioè i conigli si riproducono, non è una... Vabbè, ma ci sono mille ragioni, ragazzi, fatemi mangiare il coniglio adesso. Bravo Giuseppe, cazzo ce ne frega di Parenzo. No, Parenzo è d'accordo con me in questo caso, non lo mangio ma è d'accordo con me. Non allora... lo mangio, ma certamente, assolutamente. Fantastico. Mi sto fre... ecco Dio. Ragione 2, è vero, c'è lo stetto. Già, io ti ho detto, quello è pericoloso, perché adesso ti poi potresti morire in diretta. Sarebbe anche interessante, però. No, no, pensa, per carità, non arriviamo a questo. No, poi non si creerebbe il silenzio perché potrei continuare a parlare io, però puoi morire. Ma parla tu un attimo con l'ascoltatore mentre mangio, intanto. Poi Giuseppe da Milano, ecco, Giuseppe, dimmi, caro. Sì, senti, io devo parlare con Cruciani, perché comunque... No, vai, parla con Parenzo, sto mangiando il coniglio, non rompere i coglioni. Ti invidio per il coniglio, te ne sono grato perché io ci vivo con i conigli pure, però ho chiamato per un'altra cosa, volevo svelarti perché Parenzo ha sempre la tosse, perché prima di entrare in trasmissione si fa le canne. No, ti assicuro. Guarda, che ultimamente si vedeva anche dagli occhi. Eri dentro nel tuo studio con due occhi. Ti assicuro che tu hai tanto le occhiaie che ho un'esperienza. Guarda, non avrei nessun problema a dirtelo. Purtroppo è praticamente, ma ti assicuro, un anno. Sì. Sarà un anno. Buonissimo. Che non mi rulla una bella canna. No, di solito Beppe, ma te lo direi, non ho nessun problema. E siccome lui fuma la marijuana, sicuramente gli fa oggi si è scoperto una cosa, ho finito di togliermi l'ultimo pezzetto. Ma guarda, è un mese che non fumo neanche le sigarette. No, ma lo sai che è successo? Mentre. Ho scoperto oggi, scusami un attimo, ho scoperto che in realtà nelle piazze italiane, nelle strade italiane, praticamente arriva una marijuana dopata. Cioè il proibizionismo ha creato un mercato assurdo, per cui la marijuana che fumano in Italia, che molte persone fumano, è una marijuana dopata, cioè con sostanze che rendono la marijuana molto molto più forte. Così ho letto, ma gli esperti lo dicono, no, io dico. Se abbiamo ancora Cicignano al telefono, io voglio dirvi una cosa a proposito del coniglio, che molti mi dicono avete fatto la marchetta, non c'entra niente la marchetta. Io questo ristorante in realtà non lo conoscevo, ho fatto su Google oggi una ricerca che è quella Coniglio Milano, e effettivamente mi ricordavo che c'era un ristorante che si chiamava Coniglio Bianco sul Naviglio, per cui ho chiamato i signori gentilmente mi hanno detto sì, tranquillamente vi portiamo il coniglio in studio, per cui non c'è nessun tipo di marchetta, non conoscevo questo posto, non conoscevo il signore che è un mio ascoltatore, nulla di tutto ciò. Pubblicità e torniamo con Cicignano. La Zanzara. Oh, è buona la testa del coniglio, non la buttare, si mangia tutto, c'ha le guance morbidissime, sai quando tu lo tocchi così non è solo pelliccia, c'ha anche proprio la carne morbida, morbidissima, buona, la parte più buona forse è proprio la guancia. Ciao, buon appetito. Allora, siamo con Francesco Cicignano, che ho fatto aspettare un po' al telefono, però Francesco, scusa, ci mancava che bevevi anche il dolce. Mi dovevo mangiare il coniglio perché c'era un appuntamento previsto e era una cosa assurda questa cosa qua che vogliono proibire. Tu te lo mangi il coniglio, sì? Io mangio tutto, tendo più al maiale però. Più il maiale del coniglio. Senti una cosa, ma questa storia della gnocca di Berlusconi che è uscita fuori oggi, no? Vabbè, tu già una volta l'avevi detto che ti piace la gnocca, ma ti piaceva? Ma perché... sì, ma ascoltami, sono le solite... Allora, io sono abituato nella vita a drammatizzare le situazioni. Ma no, ma tu sei spontaneo, no? sei spontaneo. Si fanno su un castello, vabbè, che si divertano. Ma no, sembra anche normale che uno faccia una battuta ogni tanto, no? No, ma certo, tu hai detto a me piace la gnocca, eppure a Berlusconi piace la gnocca. Io la verità ho detto che a lui piace, a me piaceva, perché ormai non ricordo, ecco perché la nomino, così mi ricorda qualcosa, no? Ma che, perché c'è un ricordo, scusa, amico mio? Perché ormai c'ho la prostata, sono un po' anziano, hai capito? Cioè, ormai non trombi più. Che cazzo vuoi trombare? Faccio il fischietto adesso. Cioè, col fischietto, con che vuol dire fischietto? Scusa, spiega. Vabbè, lo racconto quando ci vediamo, dai. No, ma che vuol dire fischietto? Che fai? Che vuol dire fischietto? Ma dai, non ci mettiamo a fare Ah, che vai di cunnilingus, dice. Si chiama cunnilingus, no, il fischietto. Questo, vabbè, dai, chiamalo come se pare. Ma non ho capito, che quanto tempo è che hai fatto la prostata? No, non l'ho ancora fatta io, il problema è quello, capito? No, il problema è quello, che non, cioè non ti tira più, questo è il problema. No, non è il problema, vado in giro col pappagallo. Io quando vado in giro, per esempio anche stamattina, mi sono portato il pappagallo. Mamma mia, ragazzi, che incubo. Sì, Ma scusa, per cui sta cosa di Berlusconi a te delle oggettine è una cosa che ti fa godere, cioè il numero uno. Ma lascia stare le oggettine, cioè, adesso, io, ascolto, io penso che da che mondo è mondo le donne piacciono i maschi, no? Cioè, per cui Berlusconi da quel punto di vista è il numero uno, secondo te, cioè uno che a casa sua faceva... Ma Berlusconi nella sua vita privata può fare quello che gli pare, come lo facciamo tutti quanti. E appunto dico, però ti piace uno che è così, cioè che gli piace la gnocca come Berlusconi, circondarsi di donne? A me, guarda, a me piace, ascolta, a me piace come politico e come persona, perché io ti dico, quando ha fatto delle promesse le ha mantenute, perché mia insomma, madre gli ha aumentato la pensione a 1 milione al mese di vecchie lire e poi sono diventati 500 euro sulle promesse ha tolto Rimo, che a me mi ha fatto pure comodo all'epoca, ha fatto la quarta corsia qui sulla 4, sì, e pertanto poi io non faccio più la coda quando vengo a casa da Milano. A me è sembrato che bene o male qualcuno ha fatto, poi tutti quanti, non è che insomma quando sei a Roma puoi fare tutto, se ti mettono sempre bastone tra le ruote, ho fatto un ragionamento e mi sta bene questa parte politica, che hanno i valori che coincidono con i miei. Sono andato a Milano, ho trovato tutti i ragazzi 32, 38, 40 però, anni, scusa, questo è bello da vedere, perché ormai noi siamo anziani, dobbiamo ritirarci, però se gli diamo una mano ancora, non è che guarda, capisci? Aspetta un attimo, abbiamo capito qualcosa in più di questo siciliano. Sì, che abbiamo la domanda che io faccio ai radioascoltatori è sufficiente sparare a una persona già per detto, finire però, il consiglio comunale? Ma a parte che deve essere votato dalla gente, deve essere votato. Voglio dire, ma questo ma è sufficiente questo? Oppure è sufficiente avere la prostata come si sta raccontando? Quel signore qui che sta parlando, che non so chi è, si chiama Parenzo, cioè, continua a dire sparare, cioè io non ho sparato a nessuno, perché sparare vuol dire avere l'intenzione di sparare, esatto. Io l'intenzione non ce l'avevo, si è difeso. Io mi sono svegliato all'1:15 di notte e ho visto una sagoma davanti a me, cosa ho fatto? Avevo mia moglie a fianco, cosa fai? Ma sì, io ma vorrei vedere le persone, quando parlano dovrebbe pesare quello che dicono. Ma dimmi una cosa, cioè, ma tu io fino ad oggi non ho mai sparato a nessuno. Dimmi e una cosa, Francesco, l'avrei voluto fare, però purtroppo è così. Francesco, ma non ce lo puoi dire, ma dove cazzo era quando gli hai sparato questo qua? Io qua, allora ascoltami Cruciani, tu non mi conosci come persona, io se dico una cosa è perché o la so, no, o ma sono cambiate le versioni, sto zitto, perché se tu parli di cose che non sai fai figura del cacchio. Perché se ci mettiamo a parlare sul discorso armi, cose, ti dico che quando parlano del Far West, parlano dell'America, dicono solo stronzate. Perché l'America, noi no, come ma dove hai sparato? Adesso torniamo alla su 100.000 abitanti, su 100.000 abitanti, noi abbiamo 34 volte superiore agli Stati Uniti d'America, lo sai. Vabbè, ma dimmi dove hai sparato, dove era questo qua? In casa, dove che sia. Era dentro casa? Certo, se no se era sulle scale sparavo in aria, no? Come ho fatto con gli altri due. Ma io avrei sparato lo stesso addosso, altro che in aria. Cioè... No, vabbè, ascoltami, se si può evitare una situazione del genere è sempre preferibile. Cioè, cosa c'entra? Cioè, alla fine se lo beccavo sulle scale non ha portato via niente, ha fatto un cazzo, gli spari, scappa. Pare che me era la quinta volta, non era un giorno, No, ma per carità, ma assolutamente. Senti una cosa, ma di Renzi che pensi di Renzi? Ma guarda, Renzi, francamente, non lo so, non riesco a capire se è carne o pesce, perché francamente cioè, non lo capisco. Cioè, io quando uno parla lo devo capire, poi sarà una mia deficienza che non riesco a capirlo, però vedo che continua ad andare in giro in Colombia, a destra e a sinistra. Quando torna dalla Colombia potrebbe portare anche 25-21 anni di carcere per la droga, cosa che qui in Italia ti fai 4 mesi e vai a casa, capito? Cioè, noi purtroppo abbiamo una classe politica che a mio avviso non fa al caso nostro, perché loro nel raccordo anulare, loro tu vai lì a Roma, noi c'è già 3-4 anni, ma nel raccordo anulare non succede. Non c'è mai un caso, pieno di polizia, carabinieri, finanza, c'è di tutto. Come esci dal raccordo anulare? Cioè, perché succedono i fatti come succedono qua da noi. Senti, ma tu, come dire, gli italiani secondo te si dovrebbero armare di più? Dovrebbero essere più armati? Ma non è il fatto di armare, ascoltami, se lo Stato ti difende, no? Io non ho mai avuto l'arma sul comodino finché non ho avuto i problemi fino al 94. Allora, se lo Stato ti difende, ti tutela, io non mettevo le inferriate, non mi pigliavo l'arma, non mettevo niente. Ma se lo Stato non mi difende, io come devo fare a difendere la mia famiglia? Senti, me lo spieghi. Un'ultima... Io sono libero di decidere di comprarmela, tu sei deciso di non comprarmela, ma è una libera scelta. Allora, Parenzo... Non deve essere un divieto per me o un divieto per te. È una libera scelta. Tu la vuoi prenderla? Io quando ce l'avevo in casa ero più sicuro. Il fatto dimostra che meno male che ce l'avevo. Cioè meno male che ce l'avevi, certo. Parenzo, che facevo? Parenzo. Mi armavo con io gli spruzzavo la schiuma alla barba in faccia, che te devo dire? No, ma figure. Per Parenzo uno dovrebbe prima avvertire la polizia, sparare. Ma non ho detto mai nulla di tutto questo. Io non ho mai dico semplicemente non voglio ricordarlo più che questo signore adesso sarà e intanto è indagato, poi sarà forse rinviato a giudizio ed è già finito nelle liste a proposito, di Forza Italia. È indagato anche quello dell'altro giorno che abbiamo intervistato. Va bene, infatti hanno spiegato. Ma cosa è incredibile. E il PM ha inusitatamente detto che comunque sarà scriminato. Quindi voglio dire, non facciamo polemiche. Ma come, vero, parli? Ma come parli? Inusitatamente sarà scriminato. Ma voglio parlare in italiano. Oltre a dire cazzo e figa, possiamo dire anche delle parole. Ma ho capito, ma delle parole che anche magari la gente si incuriosisce, va su Google. Ma chi sei, e il professore trova d'italiano? Il che sei, il professore d'italiano? No, però magari va su Google lo e so, dice, cioè... beh, però forse ho imparato. Ah, va una su volta, Google perché sente ignoranti... Parenzo, perché sente Parenzo, no, va su Google. No, perché magari una volta le persone ignoranti non si vantavano di essere ignoranti. Ma sei veramente incredibile, guarda. Senti, oggi invece è tutto sfoganato, la cazzata e l'ignoranza. Voglio chiedere un'ultima cosa al siciliano. Anzi, essere idioti diventa un vantaggio, tant'è che il signor siciliano, che idiota non è, ma è un furbetto del quartierino ormai. Furbetto. Fossi in lui avrei auspicato diventare almeno deputato o senatore, perché poi intanto cominciamo dal consiglio comunale. Parenzo, ho imparato il suo cognome, avremo modo anche di conoscerci, no? Finirà il consiglio comunale a sparare cazzate, per fortuna sparerà cazzate e quindi non sparerà alle persone, ma non è quello il problema. Il fatto che io contesto, aspetta ragazzi, c'è il traffico, è in lista ancora prima che si concluda il suo procedimento, ma capito? Fa benissimo, fa benissimo, traffico, fermo. Ah, ci stanno un sacco di veloci in giro, oia te. Io sono un vero porco della vecchia maniera, cioè a me piace la figa. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta La Zanzara. Baby, I feel good. Allora ragazzi, dobbiamo mandare a cena siciliano e andare avanti, tanto Francesco ci rivediamo, ci risentiamo e tutto, però volevo chiedere a siciliano una cosa, che ne pensi degli omosessuali, Francesco, sinceramente? Ah, guarda, a me non mi fanno né caldo né freddo, tanto il suo, se sarà di una di loro, a me proprio non mi tocca. In che senso non ti tocca? Io rispetto tutti, non ho problemi. Ma se vedi due che si baciano, se vedi due che si baciano... Mi giro dall'altra parte. Perché ti fa schifo vedere due che si baciano? Ma no, a me non fa schifo i serpenti, ma a me non dà fastidio nulla se uno, ognuno, è libero di fare quello che vuole. Però nel rispetto degli altri, punto. E se loro gli sta bene a loro, che lo faccio. A me piace andare di qua, vado di qua. No, punto. Vabbè, ma d'accordo. Di sparare. No, vabbè, quello d'accordo, ma per te è naturale il fatto di essere gay, di insomma, no, lo sappiamo, c'è una cosa... Ascoltami, oppure sono un po'... Oppure sono un po'... Non mi tocca, capisci? Cioè hanno problemi, un omosessuale ha un problema, secondo te? Ma non è che ha problemi, a lui piace così, che faccia così, scusami, che te devo dire? Cioè, a me piace ancora quella roba lì, ancora se la vedo ogni tanto. Ogni tanto. Ma ognuno è libero di fare ciò quella, che vuole. Quella di poi, tua moglie, scusa, quella di il mondo, quella di tua moglie la vedrai ogni tanto. Siamo qua a guardarci in giro. L'unica cosa che farei io, mentre voglierei via le prostitute dalla strada, le metterei come fanno in altri paesi civili, gli farei pagare pure le tasse. Perché almeno invece di dare 282 euro a mio fratello che era invalido al 100%, quei soldi magari che portano a casa da lì potrebbero aumentare un po' gli invalidi, poveretti, che insomma con 282 euro al mese non è che fai tanta strada, un invalido. Vabbè, capito? Ciao Francesco, a presto, ciao. Baby, I feel good. Allora, ragazzi, quelli dello zoo adesso mi scrivono: ma che ti sei messo a fare il pappone di Razzi? Ma che hai detto su Razzi? Eccetera. Inizia una cosa infinita, ragazzi. Calma, calma, calma. Ovviamente, ma che manager di che? Ma quale? Cioè, io faccio questo mestiere qua, non è che faccio il manager di qualcuno e non faccio il manager di Razzi. Per cui, però, non ci vuole venire lo zoo. Che ne so, non vuole battagliare con Mazzoli. Che vi devo dire? Vi facessero una telefonata e poi vediamo, dai. Il metodo mafioso. Parenzo? Mi facessero una telefonata e poi vediamo. E poi vediamo. Adesso ti sei messo, come si dice a Siena, in una ruota di cazzotti, come dicono. No, ma non vuole, cioè in realtà poi non a so. A Siena si dice sei finito in una ruota di cazzotti. Ma non so nemmeno se lo vogliono fare poi in diretta. Hanno ragione, io sto con questi di 105, chiaramente. Cioè, stai con lo zoo, tu in che senso? Sì, hanno ragione, lei fa il magnaccia di no, Razzi. Tu dai ragione a quelli dello zoo, perché non hai il coraggio, però, come loro, di dire quello che pensi su Razzi, cioè che è un imbroglione, che è indegno, che è in Parlamento, tutte queste cose qua. No, indegno non gliel'ho mai detto, perché beh, certo, reputo che la classe politica ha fatto un passaggio, diciamo, verso il basso, ma questo lo sa, glielo dico, no? Cioè, la cosa che mi stupisce, sai cos'è? È quello che provavo a spiegarti prima, cioè l'ignoranza. Oddio, che filosofia, fammi sentire. No, ma le persone, non è che prima il Parlamento fosse fammi sentire Corrado da Bari, dai, oggi però l'ignoranza è diventato un valore aggiunto. Vai, Corrado, cioè, da Bari, l'idiota diventa un eroe. Vabbè, Corrado da Bari, dai, forza, questo è il punto. Mamma mia, che tu contribuisci a far diventare l'idiota un eroe, ma quello sempre idiota rimane, capito? Ma non dire, ma chi lo giudica l'idiozia? Tu la giudichi l'idiozia? Chi la giudica? Dai, su, alcune telefonate che arrivano dimostrano ma nessuna. Vabbè, Corrado da Bari, fra poco ti faccio una sorpresa pazzesca, perché questa sera c'è la cena grandissima di uno dei più grandi fan club della Zanzara qui a Milano. E ma c'è tu un perdi tempo e vai con quei perdigiorno lì. Ma che perdigiorno? Gente normale che lavora, mica gente che non fa un cazzo come te. Non è gente che non fa un cazzo come te dalla mattina alla sera. No, ma non è un'amichetta con cui passare la serata, andare al cinema. Dai, Corrado da Bari. Andare a teatro. Ma che cazzo c'entra? Dai. Ciao. Corrado, vai, dimmi. Vabbè. Posso? Sì, dimmi. Io ho poco tempo lì. Vai, posso? Dammi, Corrado, dimmi, dai. Sì, no, volevo dare un consiglio a tutti quelli che magari hanno bisogno in questo momento di crisi di arrotondare un po' lo stipendio, il mensile, no? Io ho trovato una svolta. Io praticamente nel corso degli anni ho acquisito una grandissima maestria nel cunilingus. Cioè tu sei diventato esperto del cunilingus? Non sono diventato esperto, io sono un maestro. Vabbè, non è che sei maestro, tutti quanti noi, a parte Parenzo, credo, usa questa tecnica in maniera piuttosto pervicace, continua, si è specializzato in questa cosa qua. Ma è il massimo della vita, è il massimo. Perdonami, non vorrei fare il presuntuoso. C'è chi usa il cunilingus e chi diventa un maestro. Io potrei forse darci anche qualche piccolo consiglio se dovessimo. No, spiegami, com'è che sei diventato maestro di cunilingus? No, spiegami, questa cosa è curiosa, questa cosa qua, perché uno diventa maestro di musica, uno diventa maestro di maestro di filosofia, maestro di scuola, maestro di matematica. Tu invece sei diventato maestro di cunilingus, ma non c'è un certificato. Chi te lo dice che sei diventato maestro? Perché è diventato il mio secondo lavoro, io vengo pagato. Vieni pagato, in che senso? Io vengo pagato, c'è un tariffario, io vengo pagato per esercitare questo cunilingus. Ma veramente stai dicendo? Cioè tu... che veramente, non lo so, se vuoi poi ci sentiamo in privato, ti faccio capire. Cioè non ho capito, spiegami una cosa, com'è? Io prendo 100 euro, va bene, ma tu prendi 100 euro? Io prendo 100 euro ad ora. 100 euro ad ora per fare il gigolo, sostanzialmente per leccare la figa, diciamo la verità. Esclusivamente per leccare la figa. E c'è qualcuno che viene da te a fare questa roba qui? Sì, perché negli anni si è sparsa la voce, in circa 7-8 anni si è sparsa la voce. Ragazzi, siamo veramente al top. Abbiamo scoperto che Corrado da Bari, se è vero, ma andremo a verificare. Devo dire che la maggior parte delle volte, Parenzo, che ci hanno raccontato qualcosa, a parte quel caso famoso di uno scherzo di un finto islamico, a parte quel caso lì, che poi la polizia accertò che non era vero perché sembrava verissimo. Tutte le volte che ci ha chiamato qualcuno raccontando delle cose, poi sono andato a verificare e quasi nel 99. No, ma magari nascerà anche un albo, un ordine di speriamo di no, un ordine dei lecca, un ordine dei leccatori. Non lo so, diciamo, magari ci sarà un albo, un'iscrizione a un ordine, no? Non lo so. Parenzo, perché non dici come mai non ho chiamato Barisoni? No, ma spiegami una cosa, Corrado, non ho capito. Tu si è sparsa la voce e quante questo ne fa? Il famoso Corrado Passera, allora. No, questo è buono. Corrado da Bari, però Corrado da Bari mi sembra un po' più famoso di Corrado Passera. Secondo me ha più consenso Corrado da Bari di Corrado Passera. Secondo me. Aprirò un profilo Facebook. Corrado Passera, bellissimo. Però scusami, Corrado. Allora, andiamo a chiarire la situazione. Sì. Tu fai questo secondo mestiere e quanto riesci a tirare su? Ma un 1.500 al mese. No, ma capito, ma la gente come fa a pagare per farsi leccare la figa? Scusa, è strana, perché tu ci sei talmente bravo. Quando diventi un maestro, ma come si fa a diventare maestro? Qual è la cosa? Aspetta, abbiamo la borsa, un attimo, è importante anche la borsa, perché si passa da cunilingus alla borsa, dunque è fondamentale questa cosa qui. Abbiamo alcuni dati incredibili di oggi, strepitosi, state attentissimi a questa roba qui della borsa perché è fenomenale, e dopo torniamo con ricchi premi cotillon fino alle 20.50 con il maestro di cunilingus, un maestro di musica, un islamico, ascoltatori, puttane, majorette. A tra poco. C'è chi usa il cunilingus e chi diventa un maestro. Investi in fondi? Solo con Online Sim scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissione d'ingresso. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Saxo Bank, la banca del trading e degli investimenti. La Zanzara. Zanzara, UAC Bar, a Zanzara, UAC Bar. ...393-71-71-701. Ciao Crucia, ciao Parenzo. Sto ascoltando la replica di ieri. La parte dove c'è quel ragazzo di Messina. Ringrazio il cielo che mia moglie è bisessuale e mi fa vedere certi spettacoli che quel ragazzo lì non potrà mai capire. E per giunta a quegli spettacoli mi fa anche partecipare. Ciao, io ho una mia idea su perché certe donne si convertono. Probabilmente sono intellettualmente e o fisicamente intrombabili, nel senso che vanno dove il mercato ha più fame, o dove se sei bello sai parlare poco gliene frega perché la donna è un oggetto. Cruciani, ma se non te fai né la doccia né il bidet poi ti devi grattare il culo col cacciavite quando torni a casa, no? Scusa. Crucia, ci credo che non te l'ha data, cazzo. Pensa, ti sarai spogliato e puzzi come un gorilla del Borneo e questa qui ti ha spesato fuori di casa. Prova a farti una doccia, magari lavati anche il culetto già che ci sei. Ciao. Noi vogliamo una Donato da Varese hotline, il numero WhatsApp di quel porco maledetto. Ragazzi, qui arriva di tutto, ma soprattutto è arrivato tra noi, caro Parenzo, un regalo per te, un regalo per te, un grande cantautore italiano, così possiamo definirlo, un grande artista, un personaggio che oltre a dire la sua in maniera piuttosto, come dire, piuttosto vigorosa, piuttosto decisa, beh, è anche un personaggio, un artista, un cantante, un poeta, possiamo dirlo, Donato da Varese. Buonasera, buonasera. Buonasera a tutti quanti. Parenzo, adesso ti tocca sentire. In studio? Sì, beh, certo. Stasera... Mamma mia, ha inquinato lo studio di Radio 24 pure. È morte chi è stramorte. Vai Donato, fai sentire a Parenzo di cosa sei capace. Vai Donato, vai. Amo te, nel tuo vivente la di me, perché amo te con la voglia di rischiare tutto. Amo te grado, desideravo amore, amore, io ti ho dato. Ora ammetto, davanti a questo specchio c'è il mio difetto. Spacca. Nessuno mai tenuto al bando i sogni miei. Amore mio, c'è un altro uomo in te. Parenzo! senso che un uomo senza non si può fermare. Rinato senza confini. Che ne pensi di questa performance, caro Parezzo? No, penso che è bravo, ma penso che anche Hitler ascoltava Wagner mentre selezionava i vagoni, per cui non è che di per sé il fatto di avere Bravo, adesso io so che tu non la pensi così, caro Parezzo. No, dico anche Hitler. Lo stai paragonando no, Hitler. Ecco, sapevo che saresti arrivato a questo. Voglio dirti che anche Hitler ascoltava Wagner mentre selezionava i vagoni, cioè, quindi questo per dire che non è Wagner è uno stato uno straordinario compositore usato da Hitler. No, ma scusa, questo... ma hai trovato gradevole questa cosa o totalmente inascoltabile? Per dirti semplicemente che non è che se uno fa una cosa gradevole, questo è che mostra di avere un talento, indubbiamente. Questo è talento. Io non ho capito una mazza. Adesso lo dico io, adesso sono cattivo io, Adonai, io non ho capito una mazza di queste parole che hai scritto. È meglio questo... quando è meglio quando interviene la radio a dire le cose due, altro che a cantare. Cioè, questa è una canzone d'amore. Ma è una cosa pazzesca, si capiva una mazza, le parole, una cosa tremenda. Cioè, è una cosa agghiacciante. È meglio quando vai all'attacco, dai. È meglio quando vai all'attacco, amico mio, dai. Ma sono cose completamente, sono diametralmente opposte. Qua c'è la poesia e là c'è l'incazzamento contro chi ti vuole far sparire. E chi è che ci vuole far sparire? Gli islamici. Gli islamici. Certo, gli islamici ci vogliono far sparire. Ci vogliono far sparire, Paolo da Roma, vai, Paolo. Ciao, buonasera a tutti. Dimmi, dimmi, Paolo. No, volevo fare una domanda brevissima a Parenzo, seria, perché lo stimo abbastanza, come stimo anche te, devo dire. Poi qualche volta sono d'accordo, qualche volta meno. A proposito degli islamici, e parliamo degli islamici moderati, io voglio credere che... No, però scusa Paolo, mi sono lasciato alle spalle, adesso io veramente di parlare di islamici moderati questa cosa non ne posso più, scusami se ti trascuro un secondo, però io mi sono lasciato alle spalle la vera storia del momento, che è Corrado da Bari. Cioè, che è ancora lì. Corrado da Bari, non me lo voglio perdere. Non voglio lasciare cadere la cosa così come se nulla fosse. No, non sia mai, per carità, non che perdi mai una notizia. No, esatto. Qui la notizia è fondamentale. Esiste un uomo in Italia, pagato per specializzato nel cunnilingu, cioè nel leccare la figa, diciamo la verità. Cioè nel leccare la patata delle donne, eccetera. E viene pagato. Io, Corrado, però, ti assicuro, se mi racconti una cazzata, vengo giù a Bari e ti faccio un culo così. Cioè ti faccio un mazzo così. Capito, Corrado? Cioè, allora tu mi devi dire esattamente come è iniziato tutto questo, come è iniziato e soprattutto come ti sei specializzato, perché a me pare, insomma, molti amici mi hanno scritto adesso dagli ultimi 5-6 minuti e mi hanno detto una cosa molto semplice, cioè mi hanno detto che in pratica non è che ci vuole una grande specializzazione, trattasi di avere semplicemente un po' di esperienza sul campo. Molte persone che io conosco sanno fare godere le donne senza bisogno di specializzarsi. Vai, Corrado, vai. Ma insomma, è iniziata come una passione, cioè si inizia così focalizzandosi su qualcosa che ti piace, cioè chi piace la penetrazione anale, c'è chi piace... Vabbè, d'accordo, quello va bene, d'accordo, ci sono tante cose che possono piacere, ma come... Io ho notato, sai cos'è, a un certo punto mi è scattata... Aspetta, che hai messo? Viva voce, amico mio, che hai messo? No, sono al telefono normalmente. Allora? A un certo punto mi sono accorto che è come se avessi visualizzato quasi in modo trascendentale, spirituale. A un certo punto ho focalizzato, mentre stavo praticando, mi sono reso conto che praticamente stavo considerando la vagina una bocca. Non ho capito. Stavi considerando la vagina e la bocca, cioè consideravi vabbè, quello là non è una cosa così strana, non è una cosa così bizzarra. Ma infatti per me non è nulla di strano, cioè, ho capito, ma come ti sei specializzato? Perché sei diventato così famoso? Bari e dintorni, 100 euro a botta, oltre, quant'è che fai al mese? Ma sui 1.500 così riesco a tirar su, perché io poi ho un tariffario, 100 euro all'ora, poi faccio anche dei forfè, degli sconti, tipo... Non ho capito, c'è gente che si fa leccare la figa per un'ora? Sì, se poi vuole Donato, vuole... Tu ci credi a questa cosa, Donato, scusami, tu ci credi a questa cosa o no? Ma penso che esistono tante cose che noi non sappiamo nemmeno che esistano, esiste tutto. L'uomo riesce. Ma guarda che ci sono tante di quelle donne. Ma è un mondo degradato, secondo te, questo qua? Ma io penso, ma sinceramente penso di sì, penso di sì, ma non posso dire che non lo sia, lo è un mondo degradato questo. Io non sono un moralista, però sai com'è. Andare oltre, sempre oltre l'impossibile, siamo sempre indagliati nella merda, capito? Ma gli omosessuali ti piacciono a te? Il mondo dell'omosessualità ti piace? No, è un mondo che io non faccio fatica a rispettare, ma lo rispetto, però no. Ma di quello che pensi, non fai il diplomato. Fa schifo, posa questa chitarra e di quello che pensi sui proci. Devo fare un pezzo jazz. No, ma che pezzo jazz qua, dai. No, quello che volevo dirti, l'omosessualità è una cosa che che cazzo, non mi interessa un cazzo, che cazzo, sono ricchio da tutte le parti, non lo so, ma non lo di omosessuale. Cazzo, devo, non mi ispira, non so che cazzo di sono omosessuale, cosa devo dire? Ognuno può andare a letto con chi vuole. L'importante è che non vuole farci passare che quella sia una cosa normale. Non è assolutamente normale. Ah, non è normale. Non è nessunamente normale. Il sedere è stato, diciamo, deputato soltanto a defecare, ma non a fare quelle cose lì. Diciamo, è normale che poi. Può darsi pure che un domani possa cadere in quel tranello, ma non è una cosa normale. Non è normale. Non è normale. Quando crescono dei bambini, i signori omosessuali? Due. Credo che non sia nemmeno. Io credo che non bisogna far adottare nessun bambino a due omosessuali affinché non ci sia la certezza che non esista una donna e un uomo a volerlo accudire. Perché bisognerebbe chiedere a quel bambino. Vabbè. Noi non dobbiamo travolgere la natura. La natura purtroppo non dobbiamo travolgerla. Capito? Corrado, hai capito o no? Io ho capito tutto. Secondo me il degrado è tirare di coca. Secondo me il degrado è il politico che ruba con le nostre tasse. Questo è scontato. Secondo me il degrado. Vabbè, comunque adesso abbiamo capito. Corrado, la cosa interessante è la specializzazione. La specializzazione è incredibile. Guarda, ti dico, scusami. Dimmi Parenzo, dimmi. Questo Parenzo. È sempre Corrado Passero, no? Sì, è sempre Corrado Passero. Per capire. Comunque, guarda, vabbè, Corrado. Devo dare un paio di dettagli. Dimmi, dammi un paio di dettagli velocemente, il dai. Il poeta che hai lì in studio, Céline Davarese, dov'è il Céline Davarese? Céline. Vai, Corrado, vai, dimmi. Quali sono mamma i dettagli? Mamma mia. Quali sono i dettagli, Corrado? Nel momento in cui tu hai visualizzato la vagina come fosse una bocca e la clito come se fosse la lingua. È logico che diventa tutto un è come il bacio di Donò, capito? Cioè tu è come se baciassi, cioè, ci sono tanti artisti del bacio, quando ti dicono sai baciare benissimo. Tu ad esempio, a te una donna ti ha mai detto che sai baciare benissimo? Sì, assolutamente. Ah, sì. Capisci, se tu ti focalizzi. Cioè tu devi immaginare che sia un bacio in realtà. Che sia un bacio, e la clito diventa la sua lingua, quindi ti tiri la clito con la tua lingua, le sue labbra diventano le labbra di una bocca, poi ci sono i dettagli, lo sguardo cioè. Il respiro. Però i nuovi mestieri vanno Parenzo, io credo anche spinti, cioè vanno aiutati, cioè vanno coltivati, vanno anche promossi se vogliamo. Dunque, ragazze, donne. Ma io mi sento un benefattore dell'umanità. Ecco, donne, anziane o meno di Bari e dintorno. Tu viaggi anche a fare queste cose? Sì, perché io faccio l'agente di commercio. Per cui viaggi nell'ambito 200 km, raggio 200 km, va bene? No, a me se mi pagano il biglietto aereo vado anche a Milano. Ah vabbè, allora insomma, disponibile in tutta Italia e forse anche all'estero. Corrado da Bari, specializzato in alcuni lingus, è a vostra disposizione, se volete noi offriamo anche il numero di telefono e tutto. Nuovi mestieri vanno incoraggiati, tempi di crisi, insomma, è una cosa anche credo che Confindustria apprezza da questo punto di vista, Parenzo. Ah, sicuramente. Parenzo, no, che dici? Guarda, non lo so se rientra esattamente nei progetti del dottor Squinzi, quelli che presenterà quando si incontrerà col ministro Poletti al governo. Però sono nuovi mestieri che vanno incoraggiati. No, non voglio essere il bacchettone, quindi non voglio escludere che possa essere annoverato in futuro tra. Ecco, quindi insomma, vabbè, ciao Corrado. Potrei aprire una partita IVA nel terziario. Ma magari potessi farlo. Il poeta Céline è sempre in studio? Sì, sono qua, Pirra, dimmi. Sì. Corrado, fermi, ciao. Ciao. Io mi saluto, ragazzi. Do you have the time to listen to me whine? Allora ragazzi, sto per andare a questa grande cena del Riccardo da Roma Fast Club. Tra poco partiremo alla volta di, ovviamente, del ristorante da Giulia di Milano. Parenzo, dovresti esserci pure tu, grande cena. Ma guarda, io ho poco tempo libero. Quel poco tempo che ho lo dedico volentieri ai miei amici. Non è che vado a cena con Donato. Ma sei a Milano, tra l'altro, potresti venire a trovarci dopo. Sei a Milano. Neanche se pagate voi il conto. Vabbè, dai, Luciano da Latina, vai. Luciano, vai. Sono io? Sì, vai Luciano, dimmi. Sì, ciao, niente, dopo l'intervento sul Cunilingus c'è poco da dire. Cioè, basta, cioè, è il massimo, sì, è il massimo. Effettivamente. Comunque devo dire una cosa, secondo me mentiva, perché comunque secondo me ha tutte le sciocchezze riguardo del Cunilingus. Perché ogni donna in qualche modo è fatta diversa. Faccio un esempio. Beh, però devo dire, donne... che, devo dire che raramente si incontrano persone che non apprezzano quella roba lì. Raramente. Tra l'altro, io ho una mia idea, che siamo in conclusione della trasmissione, però voglio sottoporre a tutti, anche forse per come compiti a caso, forse per lunedì prossimo, caro Parenzo. Diciamo la verità, riprendendo anche l'intervento di un ascoltatore di prima, di uno di quelli che hanno lasciato un messaggio WhatsApp. Cioè, tutti gli uomini sognano la propria moglie o la propria fidanzata, la propria partner bisessuale, no? Alla fine è così. Beh, sì, tranne tu, chi non l'apprezza non è normale, cioè è evidente. Se tu non l'apprezzi, se a te non piace l'idea della tua moglie, la tua compagna bisessuale, non sei normale, cioè non sei al contrario, le donne non apprezzerebbero la bisessualità maschile. Questo è una forma di razzismo, se vogliamo. O comunque la natura tira brutti scherzi, perché tutti gli uomini sognano moglie, fidanzata, compagna bisessuale, o comunque no, di trovarsi di fronte a una scena di bisessualità evidente. Perché al contrario le donne invece, alle donne farebbe schifo, alla maggior parte delle donne farebbe schifo? E dico un'altra cosa, se uno non apprezza... Io chiuderei con questo interrogativo, perché si è già detto abbastanza. Sì, cioè voglio dire, chi non apprezza questa cosa, diciamolo, non è normale. Chi non sogna propria moglie, la propria compagna impegnata in un gioco sessuale con un'altra donna, appartiene al mondo della malattia, della marginalità. È normale chi invece lo sogna, ed è anche ipocrita chi pensa di escludere la propria compagna, la propria moglie, la propria fidanzata da questo tipo di giochi. Allora, sai una cosa che ti chiedo in chiusura? Dimmi, che mi chiedi? Fai una foto a Donato da Varese, perché voglio vedere se ha la faccia da cazzo. Ciao. No, ma dai, sei veramente scorretto. Ascolta a me. Uomo di merda. Ecco, è inutile che continua a piantare. Guarda, tu sai chi sei. Tu sei l'unica persona al mondo che potresti farmi odiare gli ebrei. Pensa un po' tu, testa di cazzo, che non sei altro. Fotografo, lo vediamo che sei faccia. Sei l'unica. Guarda, la mia faccia vince sulla tua. Ciao, la tua non ha fattezze. Ciao, la tua è asimmetrica, è schifosa. Mi avete rotto talmente tanto il cazzo che sono diventato musulmano. Salam aleikum. E com'è bello viaggiare sentendo la zanzara. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente.